dovrà conoscere la geografia. Salvatore, è bravo Salvatore. Vieni avanti qua, che grode, è ingiocazzato. Probabilmente perché stai usando lo stesso setup che avevamo sentito ieri. Sì, sì, il 950, sì. Stesso set, solo che il microfono è quello della Icom, capito, con l'adattatore. Praticamente Icom Laser, io abbiamo fatto prima di Laser, adesso ci ho provato Icom, e qua va molto bene. Da di più rispetto agli altri, evidentemente, ed è un po' troppo. L'altra rimane un po' più gentile con l'ultimo che mi hai fatto sentire ieri. Ma io anche perché io sono un poco gentile, ho un salvatore, quindi mi piace distinguere tutto, capito? Almeno la radio. Almeno la radio, infatti sono pochi. Almeno la radio si deve sentire. Sì, che si senta sì, però è già quasi, capito, quasi un brontolio, mentre ieri era profonda, cioè aveva un po' più di medio-alti, però non era come questa, ecco perché ti stavo dicendo che forse qualcosina in meno potevi dargli, però per non stare ad andare avanti e indietro anche con i setup, è chiaro che una volta che ne identifichi uno, poi quello rimane. Setup è sempre quello della radio, non lo tocco mai, ma sono abbassato da 1,5, ho messo uno il mitigate, ma spinge parecchio questo SM20 MCA, con tutte le radio tu ovunque lo metti, che sia Kenwood, Icom, Laser, poi spinge che è una meraviglia. Sono scoppiato io, sabato, anche a grotte. prezzo ovviamente all'ora della messa del pomeridiana di domenica, citando i Vespri. Scusate, ero in bianco. Ti preoccupare, già lo so, la tonaca c'è lì. Se avete voglia di sgambettare un pochettino, massa e broccoso. Ma manco se mi paghi, manco se mi paghi, manco se mi lasci in terra, se la vuoi cuoci. Viene Grolli a prenderti. Ma se si presenta le faccio la luce, con la pompa. Ah, io Otto, dai, cominci buon Claude. L'ho già fatto, guarda. Già fatta la doccia, smontando struttura stamattina, anzi questo pomeriggio. Ma sabato ma il naso fuori l'hai messo, sì. Ma sono uscito dopo pranzo quando stava diluviando perché mi servivano delle canalette per completare l'impianto elettrico, due scatole di derivazione e sono andato da Bricoman e ho preso tutto mentre stava diluviando. Tipo comunque, guarda, c'ho anch'io fatto giro, mal di testa, nausea, e chi più ne ha più ne metta, spero di non essere incinta. Ma no, l'importante è che uno abbia perso il latte, guarda. Ma negativo, negativo. Prendo la pillola. Bravo, bravo. Claudio, tu ce l'hai l'account su EIQSL Card? Il notificatore di QSL? No, no, no, no. Io da quest'anno mi sono staccato anche dall'Ari, quindi no, non faccio più parte del servizio QSL Manager perché non mi interessa più. Devo ricevere QSL dal 2000, capite? Io le mando sempre tutte, ne ho spedito l'anno scorso circa 400, mi pare che ne siano arrivate 10, quindi fino a quando non rientrano tutte le QSL che ho spedito, ci ho messo giorni e giorni per compilarle, non spedisco più niente. Tra l'altro, ti ripeto, mi sono staccato dall'Ari, non sono più socio Ari, mi subito che da loro me le tengo in tasca, perché sono mezzo pazzi, per una radio rivista, per una riunione al mese, che devo pagare 72 euro, ma stai scherzando. Ah, ma io dicevo il servizio gratuito, quello di EQSL, l'Electronic QSL Card Center, che è gratuito, e su qrz.com puoi agganciarlo in modo tale che ti arrivano le email elettroniche, le QSL card elettroniche nella tua mail, che tra l'altro te le può rigirare in una mail che tu utilizzi normalmente, ti arriva la notifica che ti è arrivata la posta da tizio che ti sta mandando una QSL di conferma, è gratuito, è tutto gratuito, c'è una, puoi scegliere anche nella versione base delle immagini precostituite e non sborsi nulla. Faccio una conferenza sabato, io il computer lo odio, quindi meno i miei mi mandano, meglio è a me. Io lo accendo, guardo le mail di lavoro, sto nella pagina di lavoro e basta, poi mi controllo ogni tanto ebay, vado a vedere qualche stronzata, però questa storia del QSL, mail, contramail, girare, rigirare. Faccio prima famiglia del barrio. K, vabbè, selezionato tutti fino in un unico passaggio, ho risposto a tutti contemporaneamente e manda il sistema da solo, prende, compila e rimanda al mittente. È giusto per quello, tutto lì. Ho lasciato solo il cluster, registrato il break. Ho capito, appunto inteso. No, io non stavo parlando, non facevo riferimento ad associazioni o quant'altro, io sono abbastanza restio alle associazioni. Gloria! Per cui non ci ho neanche pensato. Ok, avanti il break, buonasera. Salvatore con Claudio e con Antonio Grotte. Ciao, l'hai sentito tu? Pensavo che invece ci avevamo trovato qualcuno, non ho sentito niente. Grotte, tu che senti gli americani? No, lo sto sentendo, rimando avanti un attimino. Avanti il break sul 10, buonasera. L'ho sentito, secondo me sei tu che senti le voci e salvato. Io sento solo quello, l'uscio dell'acqua, casino, ma non ho sentito niente. Allora sento le voci. Ma niente, salvato, però. Guarda che è già cosa che si cura. Contagiamo. Perché c'è qualche americano a cui hai fatto il pacco. Evidentemente, cambio. NB cosa dovrebbe essere? Un filtro noioso? No, come dire, NB dovrebbe essere un filtro antidisturbo, no? Allora? Non mi sbaglio, sì, un filtro antidisturbo. Invece DW? Esce fuori una scritta di W, però non capisco a cosa si riferisca. Devi fare veloce. Break! Avanti il break. Salutoni! Avanti break. Salutoni, circolare a tutti! Ciao Vani, non ti ho sentito prima, non sento solo voce, basta. Vani, ma non avevi altro da fare adesso. Cos'è che c'è? Non avevi altro da fare, boh, ma adesso perché sei entrato in radio? Cosa parlare a te? Perché non sei andato a vederti la cavalcata, a prenderti un po' di tre capo. E allora, tutto bene, Daniele, Danny Boy. Tutto a posto, dai. Ah, sono uscito ieri notte a fare giù la bancarella e poi già siamo rientrati. Così. Allora pensavo che oggi piovesse, ma pensavo a me sulle previsioni. Famiglio, ma non sei passato, perché non sei passato vicino alla mia, che ti saresti mangiato una crepe? Te l'ho detto, hai fatto tutto, non ti ho visto. Oh, Piazza d'Armi. Quello di Piazza d'Armi è che tutti pensano sia una piazza, invece è una via. No, vedi, io ci sono passato, Antu. Eia, già non c'era per Piazza d'Armi, io sto pensando se c'era passato. No, non siamo passati, hai visto? Che c'è l'Istituto d'Arte. Gaffa, assolutamente sì. Di fronte all'Istituto d'Arte, un po' più in basso, e niente. E stava andando alla grande, anzi di più, è andata alla grande ieri, oggi aspettavamo il botto, invece siamo esplosi proprio. E oggi il botto l'ha fatta la pioggia. E infatti l'ho sentito alle 5 del mattino, ho iniziato a... No, non bestemmio per mia natura, perché non mi sembra il caso, però ho il peccato, dai. Vabbè, riprendi qua, buonasera. Grazie. Ciao Daniele, buonasera. Non c'è pioggia. Stamattina mi doveva piangere. Sono uscito alle 7, c'è entrato che era per due giorni, 11:30. Stamattina piovendo, non vado a piovere, scherzo di tempo. Avanti, Salvatore nei piedi. Appa, ciao Daniele. Eppure la ne deve ancora fare di acqua, perché in realtà non è che ne abbia fatto chissà quanta. Io non ricordo più, sì, città di Sardegna, ma tu lo sai che la diga del Cuga è stata inaugurata 5 anni fa, per la prima volta hanno aperto le palazzine di scarico, ed era stata fatta nel periodo prebellico, prima era la seconda guerra mondiale, per il di conto. ciao Gro. Ciao Gro. Mi senti, dove siete tutti quanti? Non so chi ci sia, perché sono entrato in questo momento senza fare ascolto. Saluto tutti tutti cordialmente e distintamente. Avanti di nuovo, Antu. Ma di noi non copiate il nominativo, comunque da questa parte Antonio Grode mi ha sentito per la primiera, avanti la vista. Il mio nominativo è temporale. Il trone, vabbè, Gianni, che in compagnia di Lenny Boy, dello Sparviero e di Bombore, che ti rilancio, dai, riprendi il sabato. Eia, ciao già. C'è Antonio Grode, c'ha il temporale in testa, c'ha. È una cosa incredibile. Oggi non ha fatto ancora l'americano, ma ci attendiamo uno dei suoi meravigliosi mascheramenti da un momento all'altro. Meno serena che le crescono i capelli. Ah, con la calvizia incipiente. di mettermi la parrucca estiva definitiva. Ho detto, ti ho visto ieri facendo il gallo. Non mi hai visto? Perché non ti sei fermato? Perché facevo per distratto, però ti passavo davanti, mi stavi salutando quegli amici. E tu, oh, ciao, e bene. Ho visto che eri impegnato, mi sono fermato per quello. Mi ha fatto male, perché ieri sera avevo intenzione a un certo punto di chiamarti al telefono, non sto scherzando, poi ho visto l'orario e era davvero tardi. Allora ho detto, ma è che ho salutato amici, sono passati 2 miglia. Cosa ti ha fatto la domanda? Come lo vuoi, alla fragola o normale? Beh, la domanda di ieri era quella, anzi c'era anche il lampone. Stai facendo il gallo, ti ho visto con 2 donne, come mai? L'arema stai facendo? Beh, attivo, collaboratrici. Vabbè, una era 25, l'altra era la collaboratrice, assolutamente. E comunque la facciamo anche al lampone, naso. Ma lo zucchero? Di Roger, e ormai esiste qualsiasi colore, quindi qualsiasi sapore, anche al doppio rum. E vabbè. Come è andata ieri sera? Penso bene, visto che c'è la gente. Si è andata benissimo, però se lo dividi in 2 giorni fa un po' l'ascamo, capito? Perché il primo giorno ho ammortito tutte le spese vive, dopodiché il secondo giorno è tutto grasso che cola, e invece di colare grasso oggi è colata acqua. Purtroppo anche l'organizzazione della cavalcata è stata un po'. Nel senso che hanno perso benzina, sia chi è venuto qua da fuori, eccetera, eccetera, i gruppi, gli organizzatori, eccetera, eccetera. Hanno speso un sacco di soldi di base. E vabbè, comunque la decina di gruppi sono scesi e io c'ero sino alle 11, poi alle 11 ha cominciato con la 4 ore forte e non ce l'hanno fatta più. Posso, scusate, gli amici per il ping pong qui al rilancio, a Claudio Sparviero, sì, però loro sapevano da 10 giorni a questa parte e diciamo che orientativamente non te la rischi, orientativamente 10 giorni sono, non è un periodo così lungo, sono abbastanza precise le previsioni. Sono tentati, hanno rischiato e hanno preso la sondone. Vero è che io non avevo mai visto vincere, cioè la prima cavalcata da quando è nata la manifestazione che hanno interrotto, perché non era mai successo. Che te ne ricordo? Vabbè, ciao Gianni, buonasera. Purtroppo è così, l'acqua non si comanda, era già in avvicinamento da ieri, perché purtroppo non era normale, quindi è chiaro che tutto è scaricato tutto assieme. Io sono uscito alle 7 stamattina e già stava diluviando, perlomeno le zone e Sassari pioggia leggera, ma adesso si accade che le zone lì stava già diluviando forte. Perciò si poteva immaginare una cosa leggera. Io l'avrei tranquillamente rinviata, non avrei fatto scendere nessun gruppo, niente, non basta volerla, l'avrei rinviata, andata alla famiglia, poi l'avrei fatta come cristiano. Se la cosa è fatta bene, l'avrei messa a cavallo. ragazze l'hanno ricevuto in dono dalla madre, che a loro volta gliel'aveva dato la nonna, e si rovinano sotto l'acqua, si distruggono, uno perché sono antichi, due perché comunque il velluto con l'acqua non è che va così tanto d'accordo. Dopodiché permetti di sentire sull'affermazione che hai fatto, e cioè sul fatto che l'acqua non si controlli. Secondo me la stanno controllando, e la stanno controllando bene gli americani, perché stanno portando avanti questo progetto, tale progetto ERPE, una cosa del genere, c'è un nome un po' particolare. Fatto sta che sono quegli aerei che vediamo che lasciano quelle strisce molto lunghe, che non sono aerei di linea ma sono aerei militari. Sembra che stiano buttando nell'aria bario al fine di controllare la densità e l'umidità dell'aria stessa. Infatti è vero che a seguito del passaggio di questi aerei che fanno degli incroci strani, il giorno dopo piove, fatto sta serve per creare le condizioni ottimali per poter portare avanti questo progetto, che è un progetto poi di trasmissione radio, dove dall'America stanno facendo degli esperimenti proprio su alcune regioni dell'Italia, che sono la Sardegna e qualcun'altra, forse Salvatore, che gira su internet qualcosa ha sentito. A te, Salvatore. L'unica cosa che io ho sentito, ma non l'ho letta su internet, me l'aveva detto un anno e mezzo fa, forse 2 anni fa, questo israeliano che è il tecnico della Motorola, con quale avevamo un incontro il giorno, a margine mi aveva detto che loro ad esempio in Israele, per agevolare le piogge, saltuariamente fanno sparare con delle, non so, con delle sonde o non so che cosa, fanno aprire nelle corpi nuvolosi che possono essere di passaggio, non so che cosa, fatto sta che agevola alla, non so se è la concentrazione o vai e pesca, comunque la pioggia. Non so che cos'è che avvenga, questo me l'ha detto 2 anni fa, sono esperimenti che si protraggono oramai da molti anni, poi forse insomma gli americani avranno trovato qualche altro nuovo vettore per riuscire ad addensare l'umidità e a farla precipitare al suolo come acqua, ma non ho idea. Allora, basta che cerchi su internet, su un qualsiasi motore di ricerca, scie chimiche, e appunto ti spiegano un attimino tutti gli esperimenti che a nostra insaputa, perché sono coperti dal segreto militare, gli americani stanno facendo sull'isola sarda. Proprio ti ripeto, basta vedere i salti di qui, vengono, cagano, fanno quello che vogliono, dopodiché la cacca, come si vuol dire, ce la dobbiamo rimestare noi. Fatto sta che in Sardegna si stanno presentando, soprattutto negli ultimi anni, un'incidenza di tumori e di malattie neurodegenerative decisamente al di sopra della media nazionale. E questa la dice lunga, perché essendo il bario un metallo pesante, comunque nel momento in cui lo inali è la prima cosa che ti crea problemi alle cellule neuronali, e comunque sembra che tutti questi malati di sclerosi multipla siano dovuti appunto a questo tipo di esperimento che stanno facendo in Sardegna, soprattutto in Sardegna. Non so che dire, Anto, che vuoi che dica, gli americani sono forti. Americani, Gianni, riprendi. La cosa l'ha detta, questo caso l'ha sollevato anche Beppe Grillo. Chissà perché quando deve arrivare al Parlamento questa cosa si blocca sempre, non si capisce come mai. Non so che dirti, adesso so di sicuro che sto masterizzando un DVD, per cui cari belli, adesso vi lascio che faccio questa cosa qua che mi fa male lavorare e premere la portante contemporaneamente, vi posso solo ascoltare. Bene, io sono un buon per X, siamo qua. Valille. Antonio, già sono qua. Scusa, non ti abbiamo rilanciato, eh? E quindi non sei riuscito. Hai tenuto la tua 25 chiusa in casa. Allora, no, in questo tempo, adesso è l'oraria. Imbarcati l'acqua e basta. Sai qua, nonna, quando siamo tornati a casa. Poi dirò, il giro stretto, dai. Avanti Gianni, se ci si... Gianni non più. Ma poi hai trovato usata qualcuna tu? Gianni, sveglia! braccio. Non si è sbozzato, non ha avvisato. Mi sembra strano. Non so. Di solito avvisa sempre lui. Gli atti di estrema maleducazione sono esclusivamente di prerogativa delle flotte. Quindi Gianni Doppio Roma assolutamente non è possibile che faccia cose del genere. No, ma tu in questo periodo già stai avvisando. Anche se ti ho sentito oggi sul canale, prima 36, poi 35, poi la FM, poi la M, passa lì, passa là. Hai detto un attimo, arrivo subito, ti siamo due ormai dei vecchi. Oh, perché è arrivata gente, vabbè, molto spesso non è che puoi dire aspetta che vada a comunicare al baracchino che normalmente, ma credo Giovanni abbia capito, ci mancherebbe. Ci sarà capito lo stesso. Però vedi che è work in progress, sono nella condizione, sto migliorando piano piano. Adesso mi sto mangiando una piadina romagnola, bevendo una birretta e vi ascolto. Ecco. Avanti, Drecco. Ecco, i salutoni a tutti. E a quello là che non risponde al telefono. Buonasera, noi stiamo facendo qua, leggi di Smithor. E tu dove sei? Non via. Tu sei sotto casa, se non ti sposi ti butto una bacinella d'acqua adesso, visto che non sta piovendo. Io sono a casa mia, sotto il mio tetto. Dove ci sei arrivato il 960 qua? Ma io sono a fianco a casa di Grobbe. Pitti, non va bene così, sono facile mi tagli i fili, che ti segnali così forte a me non mi piacciono. Ma quella antenna è diversamente abile, lì. Questa è nuova, tu. Ciao Fabio, buonasera. Lì ce l'hai a 50 metri, a 2-3 usci. Non sta piovendo, vieni qua, via. La domanda sta diluviando, allucinante. Non sta già un minuto. No, io sono tipo di un figlio che diceva delle bancarelle. Ha detto, però ma che non mi prendiamo? Tutto internet, sono andati, quant'è? Detto nel tempo di arrivare e tornare indietro, gli ho comprato le caramelle. A parte che avevo tutti sbaraccato, una pena, c'era gente con questi maialetti arrostendo, ancora lì arrostendo questi maialetti e ce li attaccano a culo, poveracci, amica, una desolazione c'era. Non ne sono andato, non è tutto entrando adesso, ma sono uscito quant'è, 40 minuti fa il tempo di arrivare. Ho trovato il Grotte che non risponde al telefono, però vabbè, per il resto sta a posto. Riprendi Grotte. Sì, papà, non sono più Rix, perché l'avevo staccato perché sono rientrato di pomeriggio, fatto pomeriggio dopo andare in baraccato, come hai detto tu, e avevo annullato la suoneria, come ne sono reso conto, e di nuovo agibile il cambio. Per me, un mortorio no? No, no, una piscina, una passata, una passata. Una vergogna, è una cosa incredibile, ogni festa rovinata, le uniche feste che abbiamo a Sassari con te, abbiamo la cavalcata e i candelieri, qui non ce ne sono altri. Ma sempre famiglie, sempre alla cavalcata. Quasi sempre, capite, come la festa di San Gavino a Porto Torre, se ogni volta che c'è la festa di San Gavino piove, soprattutto quando c'è la processione, capite? Oramai, sì, ma come ha detto Boccanti, hai già visto il tempo che non era buono, ma la sposti, la fai la prossima domenica a cavallo con la festa grande, e la cosa sarebbe andata alla grande, che cazzo fai? Scendere i gruppi con una quattrone, ma mattina c'era la festa di Podromo stasera e l'hanno spostata al Verdi, ma ti pare che la cavalcata sarda deve andare al Verdi, ma mattina, ma come tante le persone ci stanno a vedere balissati. Sì, quello sì, però c'è cos'è, quello che c'è è vero, cioè non c'è, è vera, non c'è, però a me mi ricordo spesso che un po' l'acqua l'ha fatta molte volte, qualche volta capita, però non puoi spostare, come fai tu, non puoi immaginare nemmeno logisticamente cosa c'è dietro di autorizzazioni, di forza dell'ordine, di organizzazioni, cosa c'è dietro organizzazioni. possibile spostarla, non è che stai spostando la cena tra quattro amici, ragazzi, un po' tempo, molla tutto, con la gara in frigo, ci vediamo la prossima domenica. Vale, il problema è che ho visto un sacco di gente che ci mette la costile, non so quanti cazzo di maiali, e ce li ha tutti lì, anche perché oggi con il telefonino, guardi, io infatti ho guardato, lo sapevo qualche giorno prima, ma guardando il giorno prima ho letto che diventava pioggia da mattina a sera, ininterrottamente, e così è stato. Le previsioni oggi a breve termine, quelle di un due giorni, quelle le azzeccano non al 99, al 100%. Voglio con loro. Sì, ma infatti voglio dire, quando senti una cosa del genere, cioè tanto ci vogliono quante 3 ore per fare un maialetto, 4 ore in quella maniera, un fuoco cazzo. Mettine un paio al fuoco e basta. E poi vedi un po' il movimento, cioè tutto può essere che il tempo si apra, ma le previsioni non si però. Ci ho visto cose faraoniche che oggi stavano arrostendoli. La roba che gli rimane, poveracci. Cazzo che ci hanno rimesso una barcata già quando chi lavora con queste cose qua. Una volta che fa una cosa genere sono un sacco di soldi persi. Se in più ci hai messo anche merce, perché lì per esempio dove stava rotando maiali, quindi ho visto la loro roba, non è che stavano solo 2 o 3, ma con mezzo di maiali ve ne erano una marea in fase di girarrostoli. Ma infatti mi è rinomato che alla cavalcata guadagnano tutti. Tutti, se volevo dire tutti, perché io dello stesso prodotto che commercializzo ne avevo 4 a fianco e stavamo lavorando tutti quanti dal giro di gente che c'era, assolutamente. Il problema è che ci sono quelli che vogliono fare proprio il posto come quelli là, e logicamente devono iniziare a rottire alle 4 del mattino se ti fidi, perché alle 7, sai che ci mette un paio d'ore il maiale a cuocere, alle 7 stanno già arrivando i colari che vogliono mangiare, capito, quantomeno fare l'assaggio. Stamattina quando sono andato al bar per fare colazione c'erano questi qua che si stavano mangiando un panino con pancetta e una bottiglietta di birra, immaginati. Sì, ma ci sta anche, però voglio dire, uno che del mestiere, che lavora, voglio dire, lì, cioè, l'avrei fatto io, che non l'ho mai fatto, però non siamo come prima che mettevi il dito fuori, dice più oggi piove, oggi mi fa male la rotula, forse oggi piove, no? Oggi c'è benissimo le condizioni, te le danno mirate non solo per la regione ma per la città, addirittura per il quartiere, quindi alla fine tutto che se vedo un tempo del genere sei già come lavori, fai qualcosa, ma fa un corso, e poi teoricamente non vuoi sapersi il cielo, vuol dire già saper cadere, saper definire il mondo, perché cazzo è impossibile che cambia così, perché quelle previsioni, nessuno te le prendi, ma in quello ufficiale dell'aeronautico le prendi 5-6 e alla fine lo vedi, prima un attimino valuti, no? Male male il giorno guadagnare di meno, però tranquillo che se tu vai mai in rete e cerchi le previsioni non le sgarrerai mai. Poi ci sono dei siti che sono attendibili, ma vuoi fare delle comparazioni se vuoi sei sicuro, oppure comunque ci sono dei siti dell'aeronautica, ci sono siti che sono militari che spaccano, che sono precisi, quindi voglio dire alla fine non lo so. Perché fra scuolo pubblico, la burocrazia che devi sbrigare, che prevede comunque 2 marche d'appoggio, la prima per la presentazione della domanda, la seconda per non mi ricordo che cosa. Tu dici 2 marche d'appoggio da 14,62, quindi 15 euro. Dopodiché il scuolo pubblico costava per 2 giorni 120 euro. Quindi parti già con meno 200 euro, più tutte le derrate alimentari che ti compri, soprattutto se tratti materia deperibile, come può essere la carne, figurati. Sì, per quanto quelli che prendono lo sfondo maggiore, ho sentito che sono i giostrai, come si chiama Claudio, perché quelli là, quando ogni volta che si alzano il baraccone, devono aspettare l'ingegnere che vada lì e gli dia la conformità di strutturale, di messa in opera, così adesso non ricordo bene la dicitura qual era, gli fa pagare così a più 200 euro, in più per il suolo pubblico pagano delle cifre allucinanti, comunque partono un minimo da 2000 euro sotto, se come è successo a Olmedo che ha piovuto anche il giorno della festa d'Olmedo, vanno sotto di brutto, capito? Non c'è un casino. più piedi, ma dicevano alla cavallo, tanta gente che è lì, comunque se ne ha fatto, e guardavo, dicevo, cazzo, poveracci, che disastro, cioè proprio mi, perché si stava a me tenendo il cuore, vedendo quella gente lì, che cazzo, non si andavano a fare quale battaccia, magari ieri hanno lavorato, però voglio dire, cazzo, oggi c'era da lavorare, oggi c'era da lavorare, poi con la crisi che c'è, perché con la cavalcata ce ne sono poche, capito? Allora riprendi un attimino che dovevo sentire. Sicuramente ci mangeranno carne un po' mandata, quindi diciamo che fino, perché figurati se ci rimangono, ci metteranno in frigo da qualche parte, dopodiché inizieranno di nuovo a girare il giorno della festa grande di Porto Torres, che è la settimana prossima se non sbaglio, Claudio, vero? Ehi, a domenica, sabato, domenica, lunedì. Porcetti, che stavano girando, quello già si è messo la mano nei capelli, oggi è micidiale, quello è davvero un fare subito, perché fai un porcetto così, in mezzo porcetto così intorno ai 25-30 euro, moltiplicano per una trentina, cioè avevo 1000 euro così messi a girare. Bisogna vedere però perché lo stavo facendo tu, e quelli non sono stupidi, non vuol dire che ce li hanno commissionati, perché stai attento che... praticamente quelli che vendono queste cose, tu passi, dici, per allora lo preparano mezzo porcetto, sono portato a casa, capito? Ce li vendono, non sono stupidi, no? Ce li vendono. Io mi ricordo molti anni fa, proprio assistito lì, ero fermo, parlando con una bancarella a fianco e passava la gente e si conoscevano, capito? Buongiorno, guarda che è pronto, passi verso mezzogiorno e mezza luna, li ordinano e poi passano e si riprendono. Sicuramente, parte di quello che dicevi tu, però buona parte di questo è stata aumentata la gente che c'era ieri, ti ripeto, queste persone si fanno a forza, tanto come non c'è perché questi qua si rifanno alla grande, non pensarci, danno due tipi di porcetto che la fanno pagare a peso, è vergognoso quando si stiano vendendo i panini, tipo 4,50 euro, un panino con due pezzi di cipolla e un pezzo di salsiccione, però che nessuno sta lì a comprare, a comprare la stampa, quindi non c'è problema. Pure c'è anche la padrone, erano le persone a sé conosciute. Thank you. stessi. Detto proprio papà e papale da amici che ho molto molto stretti in famiglia. Un mare. Io penso che ieri il servizio tra Porto Torres, Sassari e Alghero, perché sono tutti distaccamenti provinciali, ce ne sono stati minimo un 300-400 di servizio solo su Sassari. Ma ti sto dicendo, se uno si mette a prendere birrette, solo birrette evidentemente non ha niente da perdere. I fatica non sono quelli che magari evitano di dare lo scontrino. Ad esempio, ci sono delle condizioni fiscali o degli inquadramenti meglio, come quello che abbiamo noi, dove non sei obbligato, non lo devi fare lo scontrino, perché vieni inquadrato come attività marginale cosiddetta, soprattutto se fai un secondo lavoro. Chiaramente cosa succede? Tu dichiari di guadagnare un tot l'anno e paghi forfettariamente, che riguadagni o meno, una tassa in base, adesso non ricordo, comunque a 30.000 euro l'anno, una cosa dovrebbe essere, non li devi superare nel momento in cui sfuri, ma lì lo devi dimostrare e paghi una piccola sanzione. Se no, rientrando all'interno dei 30.000 paghi una cosa fissa e non sei obbligato, anzi non devi minimamente rilasciare scontrini. Sì, avevo già sentito questo. E a tariffa fissa un sistema di reddito limitato. Vabbè, però maledetti, sono sempre in agguato. Io prima quando entravo alla barca c'era uno scontrino. Lo buttavo, adesso me lo metto sempre in tasca perché ho sempre paura che ci sia qualcuno che magari ti vede uscire, ti ferma e ti sanziona, capito? Sanziona te e sanziona soprattutto a chi non l'ha messo, ma se quello l'hai messo e tu ce l'hai buttato sono problemi tuoi, capito? Quindi devi dimostrare, ma è roba, non ci lasciano la testa in santa pace, il problema è quello, tutto qua. Avanti, Daniele. Ecco, tu stavo dicendo, che cosa hai fatto almeno, la nostra signora d'Italia? Tappa di Rogero, il primo giorno ha piovuto, il secondo è andato bene, però io ero a Saccardia, che è andato bene. Sai che cosa, Claudio? La rete di internet ha preso piede e le parole più cercate nei motori di ricerca erano sesso e gratis. Queste due parole sono le parole più ricercate, più digitate, diciamo, sui motori di ricerca. Ora, se questo fa capire che col sesso soprattutto si potrebbe riuscire a guadagnare, cioè lo Stato riuscirebbe a guadagnare e a coprire un attimino quello che è il deficit, quelli che sono, secondo me, la crisi. Cioè facendo così, innanzitutto passando, evitando il sacco, comunque a braccetto con la Chiesa, quindi di essere bigotti, riaprendo le case chiuse, rimettendo nella condizione le prostitute che l'articolo del mondo di pagare le tasse, di essere protette, di pagare le tasse e quindi di non dare soldi comunque ai mafiosi o comunque alle persone che ne fanno secondi usi. E solo allora riuscirete a tirare davvero soldi dentro la cassa dello Stato, ma alla grande, perché una prostituta, se va bene, guadagna, anzi se gli va male, guadagna dai 500 ai 1000 euro al giorno minimo. Allora c'è il carbonato, allora ragione Fabrizio, allora bisogna andare a prostituirsi per fare i soldi. Non lo sapevo, pensavo molto meno. E cosa ci vuoi fare? Purtroppo è così. E allora è un casino. Va bene. Ma Gianni Ropiolo non c'è più. La luce gli è mancata. Ci sono, scusate, ma mi hanno chiamato al telefono un'amica che si deve operare, è un'operazione che ho fatto anch'io, mi stava chiedendo dei consigli, eccetera, eccetera. Sta un po' tranquillizzando. Gava, scusate, ma non ho potuto avvisare perché mia moglie è venuta col telefono in mano e subito ho dovuto rispondere. Ok. Comunque, oltretutto, vengono controllate perché quando c'erano le case di tolleranza, questo detto dal mio suocero che era poliziotto. E lo mettevano dentro questo gabbiotto, che le prostitute non sapevano, la gente che arrivava non sapeva come vedeva tutti che entravano. E oltretutto controllavano il certificato medico della prostituta all'entrata, quando entravano, perché dovevano avere il certificato giornaliero del medico, dovevano fare la visita giornalmente. E quindi erano anche più sicuri chi andava. E mi ha detto che tra questi qua un giorno dice che ha avuto una grossa sorpresa, che è andato il prete dove si era confessato il giorno prima. Infatti le preti non ci crede più. Infatti lei c'ha ragione. Comunque un augurio all'amica tua che si deve rifare il seno, perché mi hai detto che è la stessa operazione che hai fatto tu. A prescindere da questo, anche in questo i cinesi stanno diventando concorrenziali, perché sembra che le prostitute cinesi che si trovano poi lì sempre a Fredanietta stiano prendendo dai 5 addirittura massimo 15 euro. Davvero? Sei formato, vero? Assolutamente già, e non far finta di niente, perché la volta che siamo andati a pesca già lo sai che abbiamo fatto il giro. Alle dire balle. E allora fai da bravo. Non mi viene tempo che roba che non c'ho, che non ho detto, che non ho fatto. Puglia. No. Ragazzo, guarda, ti posso dire una cosa, non sono mai andato con una prostituta, mai. È una cosa proprio che mi ripugna, mi fanno pena. Nel senso che non sei mai andato perché hai sempre venuto a lei da te, nel senso che l'hai chiamata. No, diciamo che non ho mai avuto bisogno di andarci, che ho avuto sempre ragazze normali. Ah, sto scherzando, ci mancherebbe, ma ti ripeto, secondo me se una persona è nella condizione normodotato e ci sa un minimo fare, vista le disperate che ci sono a Sassa di ogni tipo di età, cioè chiunque non ha bisogno di... È vero anche che io sono per il concetto della serie, non ho voglia di farti la corte, ma io 5 minuti, anzi 5 secondi l'ho fatta. No, vabbè, la pensiamo diversamente. Quello lì a livello animalesco non mi piace. Non sono un animale, scusa, io non sono di grotte. Animalesco, il sesso è animale, assolutamente. Non la vedo così. Io ci metto anche il cervello in mezzo, oltre il sesso ci metto anche il cervello. Lo so Gianni che tu sei una brava persona, lo so, ma il mondo è bello perché è vario, perché ci sono brave persone come te e animali come Fabrizio. Vieni Mol. Fabrizio, hai sentito cosa ti ha detto Brode? C'ha pure ragione. Sei un animale. Che peggio. Guarda, se io avessi indietro tutti i soldi che ha speso in prostitute, Fabrizio mi comprerei, ma lo sai, una serie di baracchini che, come si chiama quella persona che nominate spesso, che è il bunker, comunque me ne comprerei due di quei bunker. Sassari fra l'altro, 160 dai 160 ai 200 mila euro, per un appartamento di 80 fino a 120 metri quadri, a seconda poi della zona, secondo me, comunque 200.000 euro, ma 200.000 euro un lavoratore medio quando mai riesce a mettere sede da parte? Un lavoratore medio guadagna dai 1.000 ai 1.400 euro. Dai 1.400 euro, quindi stiamo parlando di un vigile urbano, parliamo di un vigile urbano, una categoria che dovrebbe rispecchiare quella che era la classe borghese, che prima si poteva permettere di acquistare un appartamento, ma al giorno d'oggi, ma quando mai ci riesce? Col costo della vita, col costo della benzina, col costo di tutto, ma quando mai riesce a mettere da parte 200.000 euro per acquistarsi un appartamento? Ricavo, quindi non è un esercizio pubblico, non si chiama affitto ma si chiama locazione. andato a confine, quindi. Ma mi sono guardato un bel, ti dico un bel, tanto un bel. Un bel, a proposito, trovato il pollo e fa bene. Si tratta il garage via Pasqui, 150 euro. 150 euro messi. Ed è proprio un ambulante. Tanto, è un ambulante che è entrato direttamente col furgoncino, poi si è lasciato tutti gli scaffali, io gli ho pagato 150, tanto va benissimo, c'è luce, c'è acqua, capito? È un ambulante che mi ha fatto le piene di scaricare la macchina, ricaricarla, qui là invece di entrare direttamente col furgoncino, è tetto basso, entra giusto giusto e c'è tutta la roba da prendere, da fare, capito? Sarà tutto sistemato. E detto così, me ne ha lasciato un bel, gli dico un bel, capito? E sto cercando, sono sempre su internet, ce ne trovo un altro omologare, ce n'era uno in via Nuoro, non so se sai dove, attraverso via Alghero, quelli che mini locali che ha fatto Soletta. Tanto li ha tutti venduti, tutti venduti. L'ho contattato, li ha tutti venduti. Adesso sto puntando in piazza Università. Ce ne trovo uno piccolino da comprare subito, me l'affitto a studenti. Ui. Questa è la volta che me ne vado in pensione molto prima. Ascolta, allora innanzitutto per quello che gli hai affittato e per come mi hai detto che è quel garage, non hai acciappato pannuta il pollo, anzi, me l'hai dato a un signor prezzo, nel senso che forse hai fatto l'affare tu, ma l'ha fatto sicuramente lui, perché 150 euro per un garage che mi hai detto che conteneva non so quante macchine, che c'ha luce e acqua, 150 euro non sono niente, tu immaginati dagli impicci da quello tutti. A prescindere da quello, il migliore investimento, non sai qual è? È quello che aveva fatto un avvocato, che ha fatto un avvocato con la Sassari, che invece di comprarsi un appartamento, o meglio di investire nel mattone negli appartamenti, ha investito nei garage. Uno perché Sassari è una città che ha penuria di garage, soprattutto in determinate zone. Non solo, adesso col piano casa, grazie al quale puoi ampliare esclusivamente se hai un garage di pertinenza della casa, dell'appartamento per cui vuoi ampliare la struttura, la copertura, stanno salendo alle stelle i prezzi di affitto e di vendita. La cosa migliore è comprarci un garage che meno male costa intorno ai 15.000 euro e che vai a affittare, a 100 euro. Se tu consideri che per ottenere questa cifra, cioè per ottenere 600 euro, devi comprare un appartamento minimo da 200.000 euro, ti conviene comprare garage a 15 euro, perché a 15.000 euro, perché per ottenere 600 euro, l'appartamento di 200.000 euro in affitto, bastano 6 garage da 15.000 euro, 6 per 15 fa 90.000 euro, quindi spendi la metà per ottenere una cosa che ti fa guadagnare il doppio. Non solo, quando lo affitti non hai bisogno di fare contratto, quindi non hai bisogno di pagarci le tasse su, non hai bisogno quando devi sbattere fuori l'inquilino perché non ti paga, basta che aspetti che esca la macchina e gli cambi il lucchetto ed è buttito. Non devi fare manutenzione bagni, non devi fare manutenzione impianto elettrico, non devi fare nulla, quindi se dai il retta un fesso, comprati un altro paio di garage e affittali allo stesso prezzo e vedi che vivi meglio. Non ci piove, infatti, anche la via sta facendo la stessa cosa. Ho detto pollo nel senso così, perché tutti lo volevano a gratis, capito? Sì. Come questo lo conosco, una persona anche abbastanza, abbastanza seria e tranquilla. E lo sai chi è Gianni? Ci sei? Sì, io. Io ho un amico che ha fatto proprio come ha detto Antonio Grobe, si è comprato, ho visto quel palazzo nuovo che hanno fatto in via Pascoli, prima del fotografo, quel palazzo che c'è, dopo Pino va, ci ha comprato quattro garage, e mi ha detto che sta andando alla grande. Fuck. perché diversamente non si poteva parcheggiare, non si poteva stare, altrimenti non era il caso, insomma, però alla fin fine è un investimento che non è sbagliato, non è sbagliato. Lì Claudio, non c'è quel palazzo, io ho conosciuto tutta la, diciamo, i cambiamenti, c'è stato quel carburatorista che prima era via Galileo Galilei, che sarebbe il marito di quella che aveva il negozio al corso di Otto Riccardi, c'è stato il meccanico, e ce n'è stata di gente di prima di esserci quel palazzo lì. Enrico, c'era il carrozziere che si entrava dentro, quella radina all'angolo, c'era quel cancello grande grande in ferro, si entrava dentro, era tutto vigna, così, lì c'era il mulino. Esatto, si entrava dentro quella stradetta e si entrava lì. Poi più avanti c'era la fabbrica delle bibite di Usai, dove ci sono i giardinetti, un po' più avanti. E lì andavamo a prenderci le aranciate, le gazzose, così, appena fatte ce le davamo. Sì, ne ho mai fatto vedere a te perché tu già la conosci quella, guardo. Ho fatto un mega palazzo, ma grande, perché poi gira tutto dietro, in via Montello, dove c'è l'ingresso, e poi ci siamo due o tre ingressi, una cosa del genere. Molto bello. È strutturato anche bene, molto, molto ordinato, pulito, scendono addirittura le donne a spazzare sotto, perché ci sono anche posti auto, non con garage, tu capito, posti auto così normali, quindi spaccano sotto, puliscono, raccolgono tutte le foglie, è molto bello, molto, molto ordinato. Infatti quando me l'ha detto, siamo visti Piazza dei Cigni, l'ultimo giorno praticamente che ho fatto sabato, domenica, lunedì di riposo, una mattina, ma la giornata è stata Piazza dei Cigni, e sono passato proprio davanti a lui, ma e mi ha detto, ma è il garage via Pascoli, perché come lo va? E tu io. Ha detto, ma il garage, insomma, lì, bim bum, ma insomma, ha fatto, e c'è stato l'affare. Kappa, e dove va? A tu, è un casino, questo è un business di lusso. Allora io quando sono arrivato qua nell'85, che tra l'altro era all'ultimo piano, e c'aveva la mansarda sopra, quindi tieni conto che l'ascensore arriva sino alla porta della mansarda, quindi non ci sono problemi. Avevo fatto la richiesta, se ti dico, un centinaio di volte, perché dalla cameretta di Laria volevo fare la scala, no? E fare piano giorno e piano notte, capito? Avrei avuto un mega appartamento, avrei avuto 9,9,18, 180 metri quadri. Non me l'hanno mai concesso, mai, per problemi, perché la cooperativa qua non era sciolta, perché ci mancavano tutti i documenti di abitabilità e cose, perché la cooperativa ancora è in piedi, adesso finalmente la cooperativa non esiste più, quindi siamo tutti proprietari sia del terreno sia degli appartamenti eccetera, finalmente si è sciolta la cosa, peccato perché essendo al secondo è una bella cosa lo stesso, però se fossi stato a nono allora mica l'avrei venduto, avrei fatto una cosa mega galattica, purtroppo è andata così, va bene, adesso vediamo comunque, io lavori sto facendo, poi decido cosa fare, se spostarmi o incasciare acqua. Ma te l'hanno dato l'attico qua? Gamba, sì. Bisogna solo trovare gente che paga, capito? Se trovi mali pagatori andrà tutto male. Se trovi gente che paga va tutta la grappa. E quello che c'è sempre il rischio di quando affitti è quello lì. No, ma sono figli di gente che sta qua, capito? Figli di gente che sta qua abbastanza conosciuta, abbastanza. E proprio un passaparola, passare la classe, la vedi, è stupenda, dico stupenda, è a dire poco. lo Sassari, tutto il porto Torres, il mare, tutta la costa della Ginara, c'è uno spettacolo allucinante. Il mio problema, che è quello che stiamo valutando, è che la mia crisi non è tanto incassare o non incassare, il problema è il passaggio, Gianni, il problema è il passaggio. Uno che mi conosce qua, che lavora all'arte, ma anche problemi ha, entra dall'altra parte, devo raccogliere le chiavi dell'altra massata, entra dall'altra massata per fare i lavori delle antenne, qual è il problema? Chiaro che non puoi andare a rompere le palle sempre a loro per salire su, capito? E quindi adesso la valutazione è solo quella, lui li rilascio di là. Ero in contratto che ogni volta tu devi entrare per fare i lavori sul tetto, devono lasciare tu passare, io metti in contratto così non li rompi le palle. Sembra che sia una cosa di ripicca, capito? Ma non c'è problema, perché si può andare anche nella Pascale. Io sono nella F, adesso prima ero nella G, quindi non è così difficoltoso, capito? Ho la chiave dell'altra sala condominiale e salgo da lì, non è un problema. Però è sempre andare a rompere le palle alla gente. Io da quando sono venuto qua, mi sono staccato 3 anni, non ho mai, anzi, sono gli altri che sempre mi hanno coinvolto in lavori sul tetto, perché non ci sale nessuno, tutti hanno paura, quindi le antenne le ho cambiate io, adesso mi hanno già chiesto, siccome c'è il problema del primo, qualcuno vede, qualcuno non vede, qualcuno ce l'ha sintonizzato in tedesco, chi in inglese, bimbumba, e allora adesso per troppo c'è la riunione, piatto di antenne tolgo primo e secondo e metto le loro periodiche, quelle a dirette su Monte Oro e Ciccio, capito? E quindi devo cambiare anche quelli, ma lì già sono buoni, sono basse basse, non c'è problema, devo fare anche quel lavoro. Qualcuno ha detto se le cambio il cavo, intanto cambiare il cavo è tutto sotto linea, sotto traccia, trovo il carro nuovo, vabbè, posso fare gli ispettori nuovi con i partituri nuovi, che tanto sono sotto tetto, quindi posso mettere nuovi, però altre cose non le faccio perché è una grande rottura di balle. Ma chi è questo napoletano? Questo è e questo è un napoletano, accade. Ma non ne avevo mai comprato, sicuramente le ho urtate. Va bene. Antonio Brode, ma Daniele c'è ancora, Daniele? Uscito sì o uscendo stai? Ci sono, vi sto ascoltando qua. Daniele, non basta solo ascoltare, bisogna anche entrare, buonasera. Dai Daniele. E cosa sei combinendo? Qua a casa siamo, deve fare? Sta piovendo, non fare anche uscire, via. E non girate in macchina. Lo so, uscire non va. Ma io non mi arrendevo mai. C'avevo anche il televisore in macchina. No, sono uscito un pochino così. Sono salito la nonna. E poi ci sono tornati a casa e poi andiamo a mandigare. Andava. Purtroppo il tempo non lo decidiamo noi. Ma così è. Ma ci sarà di prima a fare il bel tempo. Un lugar de tipo de pulmata. nulla, io non ho più sentito, più visto niente. Sparito. Prima mi chiamava spesso. Passava, adesso niente. No, faccia come vuoi, io sempre qua sto, non c'è problema. Infatti non vuole già ce li ha. Io lo facevo qua da Recla. Bravi. Io lo facevo qua per... Ma non è la signorita. Non è la Recla. Ah, vabbè. Va, lascia perdere. No, non so cosa parlare qua già. Ti ho già accennato di persona. Meglio niente, io tutta la mia buona volontà ce la metto sempre, con chi ha necessità, con chi vuole scambiare due idee, con tutto, con il mio caratteraccio riesco sempre a mettere le cose a tacere, però con lui guarda, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. È proprio nato così e basta. Ma venuto la volta. No, per pazienza. Mi dispiace che non avessi una persona, però la cosa del io odio è sono uguale, quindi no. Non riuscivo a niente. Chiudiamo il discorso. Che è meglio. Però ho deciso. Sì. Anche con me, una volta dovevamo andare a pescare, non c'è passato, lo telefono non rispondeva, e ho detto a mia moglie, vuoi vedere che ci ha portato qualcuno là, e è andato insieme a un altro, quindi sono andato e già ho detto, con una tabassola piccina. Queste trattate sono cose che tra amici non si fanno, io ho ho mille pecche perché ce li ho, credo che nessuno sia perfetto, però una puntualità, un ordine nelle cose, sul lavoro, fuori dal lavoro, se ti dico sto arrivando, se non posso passare perché c'è stato un imprevisto ti chiamo, cerco insomma di combinare per un altro momento, ma lasciare persone come imbecilli no, sono cose che io odio, non c'è niente da fare. Non c'entra affatto, non fa parte del mio carattere perché non c'entra affatto. Io ho agevolato un collega, questo luogo che è praticamente entrato, che di Urie veniva a casa tutte le mattine con la sua macchina da Uri. Due settimane fa ho detto, ascolta, fa una cosa. Se sei d'accordo tu, non so se te la senti. Io ti ho una macchina di servizio e passi tu a prendermi la mattina. Sappi una cosa però, io alle 7 sono giù, sto aspettando a te. Alle 7 e 2 minuti io me ne vado. Alle 7 meno 5 lui tutte le mattine è sotto casa, tutte le mattine. E ma è così che si deve essere. Io forse sono anche troppo puntuale, a volte ci arrivo anche 10 minuti prima gli appuntamenti, non pretendo che siamo tutti così, però a me uno che mi dà un appuntamento deve rispettarlo, non può venire mezz'ora dopo o non venirci del tutto, ma io dai, non è bello, dai, perdi la fiducia in una persona per la fine, dice cavolo, c'è queste piccolette, si fa vedere, figurati delle cose grandi. Brutto per tutto, capito? Non va bene perché non siamo imprenditori, non siamo, però siamo persone che uno può avere anche degli altri appuntamenti, delle cose personali. Quindi se uno ci libera dico, vabbè dai, mi libero e andiamo a farci un giro, andiamo a prendere una cosa. Alle 7, fatemi venire al lutto, non esco più, capito? Non esco più, perché a quell'ora ci sono altre cose più interessanti da fare che stare in giro, poi io da qua non sono qua, per carità. Cicillo. Finta che baciarono, ma pensavo di morto, molto più vecchio, tutti gli anni. Non sono più sceso, nulla, non mi sono più mosso la curva. Io arrivo, alle 2:30 arrivo, se non devo riuscire per altre cose, o che ci rientro, lavoro, pigiama, ciabatte, ho buttato qua dentro. Anche se mai non sono in radio, sto ascoltando, sono al computer, eccetera, però sono sempre buttato qua dentro. Non mi va, è una cosa che oramai ho abbandonato, ho abbandonato tutto, le uscite mie, mi sono piazzato le sedie, il giornale, le solite sigarettine a caccia e via, se no qui adesso non ho mandato blues, andavo a Queen se vado di blues, non so bene cosa fate, per carità, guarda, non riesco ancora a organizzarmi, l'altro giorno ero a Corso, a Martis, ho uscito a Valeduti, invece adesso oggi ho provato a fare il giro al contrario, da Sedini, ultimo impianto Sedini, da Sedini poi faccio lo scorrimento veloce, 2 minuti sono lì, guardo lì a Sant'Anna, qui, ma i primi giorni stavo perdendo l'orientamento. Sì, ho capito. Io. Pretendo sempre di più, ogni giorno c'è una cosa nuova, anche da noi è così, ma è un casino, magari dai. Oh, già, lascia perdere. Io ho una cosa che veramente mi muta di tantissimo e che ci hanno accorpato ancora questi anni di lavoro, perché io avevo tutto quest'anno, che siamo già a maggio, se ne è andato pure maggio. Tutto quest'anno avevo 4 anni ed ero tranquillissimo, e qua me ne vado tranquillamente a pensare fra 4 anni, cazzo, invece ce ne hanno accorpato altre 10. Tu ormai andato a lavorare a 67 anni già, guidando il camion, facendo quello che stai facendo, ah? Non so cui ci lavorare, io ci voglio avvisare, ma figurati a quell'età. E io così lo stesso sono, non ti credere che sia diverso per me, è arrivato a una certa età, comunque ne ho capito la metà perché stavo mettendo la porta. Mi stavo mettendo la portante? Allora vedi dalla parte tua? Chi lo sa, ti passavo. Da lì da te mi passa la portante? No, Cla, io ti ho sentito tutto il discorso perfettamente, non fa nessun disturbo. La solita portante domenicale, già. Ehi, ma vedrai già la pitica, piano piano già. Vedrai già la pitica, ma io sono con 4 watt, 6 watt, non so. Che appaga, vabbè. Dai. E comunque è così, un casino tutte le ditte, vuoi licenziare qua, vuoi licenziare là, diminuzione personale, stanno diventando drastici, da. Non mi sono portato già dalla parte tua perché qua è 9. Ma se non vengono a passare a Gianluigi, a full time, Luigi Coppo. Ehi, anche a Luigi, no? Anche se sono passato a full time, hai capito? Anche non ho dato disponibilità, diciamo, lei rimane così. L'azienda stava chiedendo di fare il part-time, immagina. A me non me l'hanno chiesto di fare il part-time. A voi di fare il part-time. Siamo in lotta, io non ne voglio fare, gli ho detto di no, è che il part time si decide in due, non da solo. Allora, cosa? Non ho chiesto niente, nulla. Sono arrivato al lavoro, a timbrare, ma poi c'è un foglio per te, ho letto, e ho visto che mi hanno accorpato altri 2 impianti. Sono salito su direzione, ho detto, ma scusate, e questi 2 impianti? No, li prendo lì per cortesia. dove c'è quello là, dove siamo persone, un grandissimo lavoratore e soprattutto capace, capite? Ho detto sì, vabbè, quindi tanto lo so che avete sempre ragione voi, e come siamo messi a denaro? No, non si preoccupi, quello lo vediamo al secondo tempo, compreso? Lo vediamo al secondo tempo, tanto vai a lavorare, no? Che invece di 200 km lo faccio 400 al giorno, capito? Vai a lavorare e poi il resto si vedrà dopo. Non è che contrattiamo o dire guardi, li abbiamo attesori in piatti, si troverà questa paga X, va bene, perché ha due piatti in più, quindi più responsabilità. Nulla, non se ne va vita di là, non se ne va vita. Magari poi sono un brutto, non ne vale manco la pena di farlo, capito? Una volta che l'hai accettato, te lo appioppano e via. E te, ti devi accontentare del brutto che ti danno. Io a volte sono fanno questi giochi qua, ma l'altro giorno mi ha fatto una portata che non mi è piaciuta, gli ho risposto. Mi ha detto, quando sali a Sassari, prima di scendere giù al lavoro, passa e ritira questo pacco, ma non usare il furgone perché stiamo cercando di risparmiare. E gli ho detto, ah, risparmiate sulle spalle mie, non ho capito. Allora mi ha detto, vabbè vado io, non ti preoccupare, no, lascia perdere, non la usare la macchina tua. E gli ho detto, la benzina io la pago, non ho capito. C'è da dire, mi fai la cortesia Gianni, guarda c'è il terzo pacco, ok, usa la macchina tua e fatti fare un buono, vai da corso, non so che ti fornite voi, vai e ti metti 20 euro di benzina, capito? No, queste cose non si fanno, capito? Ma non ti preoccupare, tanto l'ho preso all'inizio di questo mese, quindi di maggio. Adesso vediamo la busta paga di maggio. Se la busta paga di maggio non ci sono almeno 200 euro in più, avrei vedete voi impianti si rimane, da che non vado più. No, ma poi come si ti si pone la cosa, no? Se ti dicono non è che mi puoi fare una cortesia, no, devi andare e non prendere il furgone, capito? Che stiamo cercando di risparmiare. Ah, mi si prendi pure un scusa se la frase. Mi vuoi dire risparmiamo sulle spalle tue. Allora, c'era da scrivere un libro, cioè, se a me il mese scorso, a me poi, a me, che sono quello più attivo, quello più, ma non per, parlo per dire trovate, ma sono i fatti che lo dicono, loro lo sanno. A me il mese scorso mi hanno contestato la carta carburante, capito? Mi hanno chiamato in ufficio. E mi hanno detto, lei sta consumando troppo, io sto consumando troppo. E in che senso gli ho detto? Questa è la mia tabella di marcia, quindi sono i chilometri, partenza e arrivo, sono sempre uguali. Più o meno sono sempre uguali. Qualche volta che ho l'altro appresso, o la sei appresso per i cambiamenti, eccetera, li devo accompagnare impianto per impianto, poi devo tornare indietro, è chiaro che raddoppio più chilometri, ma legga. Perché io scrivo tutto poi. Ci sono i giorni stabiliti dove voi avete naturalmente al computer questi giorni che io posso fare 50 km in più, 100 km in più. Mi hanno contestato, ma hanno detto lei non deve superare i 90 km orari. Ho detto guarda io 90 km orari negli scorrimenti veloci, tipo quello per andare a Tempio, quello per andare a Nurbi, quindi faccio quasi metà della 131. Gli ho detto, andare a 90 all'ora per me significa avere una tabella di marcia almeno di 2 ore di ritardo sugli impianti. Se a voi va bene io non ho problemi. Ho provato a farlo e quando sono arrivato all'impianto c'era gente che mi stava aspettando, dovevi dare mezz'ora a chi mi diceva lì in ritardo. A me non mi deve dire niente. Non mi faccia incazzare la mattina presto, gli ho detto, cambi direzione, parli con l'ingegnere e dica che io non posso andare più di 90 km orari. Capito? Non mi ha mai detto nulla. Vabbè, comunque quella della tabella l'ha fatta anche a me, mi ha detto che venerdì ha messo la nafta, adesso lunedì di nuovo, ho detto sì, ma Aspetta un attimino, il furgone non lo uso solo io, lo userò per andare in campagna, lo usi tu, lo usa quello, lo usa l'altro, poi dovete contestarlo a me. E dove è andato questa, è andato a Stintino, è andato qua, è andato là, e qualcosa si consuma la cosa, la benzina, la nafta. Lo so, beh, noi su tutte le macchine ce ne sono, di rosse ce ne sono 150, bianche ce ne sono 30, poi se per contare tutti i dolci. Cosa ci racconti di bello? Cosa ci racconti? Qualcosa al di fuori del lavoro, perché non è un di nuovo. Mi sposo. Chi l'ha detto? Non sembrava la voce di Daniele. Croce blu. Croce blu. Dove sei Daniele? Perché c'è la croce blu. Ah, misericordia, dove è la croce blu? La croce blu, ho capito. No, non era la croce blu. La croce blu bionda. Allora la conosco. L'ho vista, forse in piazza. È possibile? Ieri. Com'è? No, io. È possibile che in servizio ieri in piazza d'Italia? No, già, sto sbagliando. Perché ne ho visto una bionda, la verità. Si stava dando forse il cambio a una certa ora, verso le 11 e mezza così. Il cambio di ambulanza forse. Come ne sono andato? Adesso sto facendo ieri vabbè, non lo conosco, adesso fanno servizio alla Genara, hanno preso l'appalto per la Genara, adesso dal giugno, non so se iniziano il 10 o il 15 giugno, fanno la votazione alla Genara tutti i giorni, 24 ore su 24 a turno, guardia medica, medico, ambulanza, tutto, addirittura anche di soccorso. Ma quelli di produttore? Ci sono, hanno detto, perché a volte c'è la sessione di ambulanze, non è la sessione di ambulanze. Il capodottore c'era, non c'è l'ambulanza dove ho avuto l'incidente io. C'è un po' quella già perché non si occupa di altro lui, e l'altro è Giancarlo da Sassari. Ha un po' preciso, mi hanno detto, non so perché c'era anche il produttore. Allora, l'ha sempre fatto Giancarlo con il servizio di Arasinare, non so se poi coinvolgono anche quello di Sassari, deciso, non lo so. Magari se non basta il personale coinvolgeranno anche quello di Sassari, non c'è problema. Ma Giampaolo c'ha l'ambulanza che io praticamente ho avuto un incidente, non stavo guidando, stavo guidando Tanino, vabbè io ero dietro che stavo massaggiando un paziente, stavo facendo un massaggio cardiaco e abbiamo avuto un incidente via d'Italia, via Le Mancini. Via Mendola, via d'Italia. Una macchina, ci siamo fermate le macchine per farci passare, eravamo d'urgenza, una macchina è uscita dietro la fila delle macchine, ci ha preso dietro, ci ha fatto sbattere la semaforo e ci ha fatto capottare. Quell'ambulanza lì praticamente l'abbiamo fermata e poi Giampaolo ci ha fatto la proposta, se la date a noi, ce la aggiustiamo, questo e quell'altro, abbiamo fatto, loro ce l'hanno aggiustata e la stanno usando loro, è un Ducato tipo V. Ah, ho capito qual è, sì, ho capito qual è. Perché c'erano una serie lì in Piazza delle Vigne dove c'era la città. e mi ha bugiato per strada, non mi viene più in tipo, dove c'è la stazione, la sede loro adesso. Oh, già, e vedete quanto mi occupo, io l'ultima volta che ero andato a trovare Giampaolo, che ero andato a prendermi il Turner, mi avevano portato lì, era lì, capito? Che avevano fatto più ricco di fuori Porto Torres e quella dopo il ponte che c'è lì dove c'è vicino anche il Rio Manno lì. E la stazione nuova che avevano fatto per Porto Torres dopo quella vecchia e poi l'hanno chiusa anche quella lì e hanno dato i locali a loro, c'era una grande officina garage e tutto quanto, un bel manco. Ah, una vecchia fecero tu, si vede da sotto Ponte Colombo, sì, ho capito, c'è quel piazzale grande, si fa vedere un'altra vecchia, cosa, sì, ho capito, non sapevo già, E comunque, niente, abbiamo detto appunto che, perché noi iniziamo sicuramente a giugno, servizio, e sì, ci sono anche loro. Infatti volevamo sapere se nell'ambulatorio della Guardia Medica, che poi a fianco c'è anche la forestale lì a Caralliva, molto bella quella zona, se favolosa, come in via dei chimica, se c'era acqua, se c'era, c'è tutto, c'è acqua, telefono, c'è tutto, c'è anche una grande cisterna, c'è anche una grandissima cisterna, qui non hanno problemi. Non so, e c'è anche l'elicottero, non so se è fisso quello della, cos'è, quello di vigile fuoco, dell'arte, cos'è quell'elicottero? Quello che fa 118 qua è quello di vigile del fuoco. In continente c'è proprio, io l'ho visto operando, allora stavo facendo la strada da Sirmione a Verona, è successo un incidente grave sulla strada e si è calato l'elicottero del 118, hanno caricato i pazienti, c'erano due ambulanze e l'elicottero, ne hanno caricato su tutte e due le ambulanze, sono partite e poi ne hanno caricato uno sull'elicottero e partito l'elicottero e poi hanno fatto riattivare il traffico, eravamo bloccati, io ho visto tutta la scena perché c'ero proprio di fronte. C'è un piazzale grandissimo, molto bello, e poi siamo per le scale a salire, c'è l'ambulatorio, c'è l'ostello, insomma. No, ma lì ci vuole, io già dall'anno scorso, da due anni fa esattamente, che andavo tutti i martedì e venerdì, poi andavo spesso, anche la domenica, il sabato, tornavo da tutti i colori, gente che si faceva male, sai lì ci sono strapiombi, ci sono cose che bisogna stare molto attenti, soprattutto le punture delle vespe, era micidiale, quindi l'ultima è dovuto venire veramente, è dovuto atterrare l'elicottero dei vigili del fuoco e portare uno all'ospedale in fretta perché stava crepando, stava morendo, era allergico e cazzo si è gonfiato, sembrava una palla che ma stai scherzando, quindi è giusto che ci sia. Allora, boh, coinvolgerci, insomma, non ho capito, vabbè, comunque. Va bene così. È un pacco di ansia migliorava, mentre il pacco ho messo a disposizione un sacco di soldi, perché praticamente non c'era niente, non c'era assolutamente niente. Per tutte le cose mediche sanitarie, tutto argentino. Allora si è rotto le palle Federici e da quest'anno dice che vuole attivare la Girana come un vero parco, come una vera città, non deve mancare niente. Lo scioccano affilattico non c'è da scherzare, se non fai subito la puntura ci può rimanere. Io ne ho visto una di ragazza, la madre legge nel giornale al mare, e io ero a fianco, ho visto questa ragazza che è diventata viola, comincia a scendere bava e cose, perché me ne sono accorto, mi sono saltato di colpo, signora, sua figlia sta scendendo male. Ah, si è messa a gridare, hanno chiamato subito l'ambulanza, meno male era la rotonda, hanno portato subito l'urgenza all'ospedale. E praticamente era stata appunta, no vabbè, spedera di quelle allergiche proprio. No, io però non sono allergico. No, scorso 2 anni fa mi è fatta una beffa. Però non sono allergico. Mi gonfia anche poco, ma c'ho sempre lo stick dell'ammoniac. E quindi no. Non mi fa niente. Ma i signori Billy, c'è la Coppa Italia, c'è la Juventus stasera e c'è anche fa, sono le 8:30, sta ancora piovendo e oggi avevo cavalcato. Io ieri non sono uscito, ma si oggi era bella giornata, ma dopo cena uscivo a fare una passeggiatina. E invece ha giocato sabato, domenica, da Valieri, domani, lunedì si rinizia e ciccia, e vuol dire. Aspetta, tu ferie, non ci vai già. Ma cosa vedi? Lui, devo andare. Bisogna essere malato, perché c'è un trambusto allucinante, sta spostando gente, sta facendo quello che vogliono, dai. In poche parole. Capi negozio che c'ha 30 anni in un negozio e sta mandando a Stintino, qua, là, da tutti i bassi. Vabbè, forse solo quello, lasciamo perdere, meglio niente. E un po' tutti stanno uscendo fuori di testa e quando vedono che non entrano molti soldi allora escono di testa. La crisi sta toccando anche loro. Già ne ha chiuso, mi pare, 2 o 3 già. Chiuso quello di via Diaz, mi pare, questo di Carbonazzi lo sta chiudendo, lì c'è l'Eurospin, l'LB, e quindi dai mattamenti in forti. L'altro giorno sono andato e sono stato a fare i butti, ho detto, ah, vabbè, no, mi ha detto Claudio, non si sa se rimaniamo ancora un mese, stiamo facendo fuori e poi chiude. Buon casino. Vabbè, dai, raga, io vi saluto. Se ci siete, ci sentiamo dopo, vado a mangiare un boccone. E se ci siete, ci sentiamo dopo. Daniel, riprendi tu. Io intanto inizio a organizzarmi per la cena. Vi saluto tutte e due, riprendi Daniel. Ciao, buona cena, un proseguo, anche io, sono più o meno. Andiamo a mangiare, a cenare, se con ci sentiamo più tardi, dai, ciao Daniele! Ciao Daniele, c'è anche Claudio, dai, buona carica, ci sentiamo dopo magari, dai. Io voglio mangiare il gelatino perché ho già cenato presto perché così mi digerisco meglio. Mi mangio pure io una cosa del genere, e buh, perché a Franco mi ha mangiato 2 piatti di tortellini, che mi ero un giorno da mangiare. Io mi ce li avevo i tortellini, poi abbiamo fatto la pasta al forno e il tortellino te lo lasciamo per un altro giorno. In brodo li ha mangiati con il suo. Sì, così mi pare che era. Io li mangio in brodo o col suo. Mi piacciono più in brodo, lo sai. Vabbè, si può fare col suo, con la spada, si può fare in altri modi, ma a me piacciono in brodo, dico la verità, con un bel po' di formaggio sotto. Preferisco il ravioli però. Ravioli non c'è niente da fare, sta sempre più bello, per pochi metri adesso, sta sempre più bello, ma quanto è tenebrosi. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera. Ciao. l'hanno annullata. La cosa l'hanno fatta al Teatro Verde. Roger, non è rimasto nessuno oltre te. Cosa, ma il primo giorno ha lavorato. No, gli è andata bene, dai, no, non mi posso lamentare. Diciamo che il secondo giorno si aspettava la cosa migliore, invece è andata come è andata, ma non fa niente, dai, ci saranno tempi migliori, non c'è problema. L'unica cosa è che sta piovendo sempre sabato e domenica, non so per quale motivo, ma non si capisce. E vabbè, perché se è vero che la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo, ricordatelo. Mamma mia. E dove ti hanno messo? No, è un posto ultimo, ero in piazza d'Armi, che è un posto centrale abbastanza. Guarda un attimino che mi attacco il cellulare che mi si spende in questo momento. C'è molta propagazione, la stai sentendo anche tu? No, la sto sentendo. Beh, ti arrivo a tu, in quella zona. Negativo, tu ti stai prendendo il QRM, perdonami, ma non riesco a tirarti fuori in alcuni momenti. Se non sono così basso, non è che sei tu basso, sono loro molto alti, capito? Stanno arrivando a Santiago 910, c'è un 9 fisso di QRM. Ci sono io quando sto arrivando a 910. Tu sei 9.10 però a picchi di 9.20, quindi a volte riesco a tirarti fuori a seconda di come muoveri. Un attimino che cambio anche il microfono, un attimo. Scappa, beh, non c'è problema. Tanto qua per ce l'hai. Scappa di Roger, aspetta che lo cambio. Scappa. Oh, yeah. Già sono un gioco per mangiare il zucchero filante. Uno di questi giorni io, se c'è una trappetta, mi devo avvicinare, è meglio di fare la faccia. Io c'era un intenzionato, poi ho detto basta. Per il coso già. No, vabbè. quando capita, insomma, almeno di 10 anni senza mangiarne. Ma però mica fa ingrassare, fa e caglia i denti lo zucchero, già lo sai. Ma poi vabbè, già lo so, ma dopo di tanti anni, almeno uno, non me lo posso mangiare. Io direi di sì, te ne puoi mangiare anche due. Ma che dico 10 anni, forse pure di più. Guarda, però 14 anni senza mangiare quella zucchero pesante, che da quando ero piccolo. Sì. Cos'è? Oh, là, aspetta che sta scendendo un casino. Arancioni che vendono da, se non mi ricordo qual è il negozio, Brico Io, una cosa. macchine, e te le fanno pagare una barca di soldi, te le fanno pagare 39 euro cariche di 2 litri di gas, immaginati, il gas che non costa niente, perché 2 litri di gas non costano davvero niente. Fatto sta che non so dove ricaricarla, perché una c'è già terminata. Facendo più nessuno, perché chi le fa se le fa per sé, perché non ci vogliamo prendere la responsabilità di fare niente, hai capito, di caricarle più. Adesso devo chiedere, devo vedere se qualcuno la fanno questa roba. Ma lo sai perché te la fanno pagare così, appunto? Perché quel vuoto rimane a te, hai capito? Tu ci stai pagando il vuoto. Io lo so, però è comunque esagerato, perché sono due pezzi di ferro, dai, lasciamo perdere, 49 euro, e se no, se la vuoi comprare, cosa, cioè 39 euro, se la vuoi comprare vuota te la vendono a 29, e comunque è troppo, dai, se la vedi è un giocattolo, non pensare che sia, poi le conoscerai sicuramente, le utilizzano più che altro chi va a fare le saldature, queste persone qua, tipo gli idraulici per fare saldature con lo stagno, capito? Chiappa. Sì, sì, non lo dirà a me, già lo so come sono fatte, già ce l'ho anche qualcuna, però secondo me dovresti trovare una soluzione migliore. O per non averle in mezzo alle spalle, cazzo, prendi un tubo lungo e te la metti sopra il furgone, te la metti e la metti lì, almeno non la vedi, non la senti. Magari cosa ne fai, il furgoncino lo metti vicino, ti metti la bombola lì col tubo lungo e tu la vuoi, poi non ce l'hai in mezzo alle spalle, capito? Secondo me non lo so. L'unica cosa, guarda, è ricaricarsele da solo. Io ho provato, però non ha caricato più di tanto, anzi. Già carica. Bisogna sapere meglio. Io non so come è quella che devi, quella con cui la stai caricando, la metti a testa in giù, e quella che devi caricare la metti normalmente. Però forse non aveva la spinta data, capito? A meno che non ci sia quella valvolina, non lo so da cosa bisogna fare esattamente. Bisogna che te lo faccio vedere come bisogna fare, però ci vuole un posto dove non fai piaggio, perché non è così, no. Io ho fatto in terrazzo all'ultimo piano, cioè ventilato, non c'è problema. Allora vabbè, un giorno vieni qua, mi prendi e andiamo lì, e te lo spiego come bisogna fare. Te ne faccio una. Ma se non ci sono fiamme non è pericoloso, no? No, un poco libero deve essere. Ma non è che la bombola, quella piccolina, per la troppa pressione può saltare, no? Ah, non lo so. Ah, vabbè, se ci stai attento, si gonfia. Ma tu per non muoverti, per facere dipendenza, allora cosa fai? Ma se ti dico la moglie, dovresti una tampollana. Il caso esploda, cosa succede? Dentro, se si dovesse gonfiare, cosa è? Se si espande così fuori, no? Non succede niente. Come il fiasco fatto, ma... Sì, vabbè, quello è il meno. Quello è il meno. Ora, riesci a vedere. Intanto lo so come te lo scendo. Adesso, quasi a fondo scala, quasi, no, come 25 passate, dai, scappa. Comunque si consiglia di usare un po' di profano, cioè, hai capito, che sono più forte. piatto. E comunque c'è un distributore vicino a Ploaghe, se non sbaglio, che carica anche le bombole. Sì, già lo sa tutto già. Il giorno che lo trovano lo cassano male, gliela mettono di dietro pure. 2 secondi che attacco il telefono. Piccolo e maneggiato. pregevole, non è tanto grande, quello ti può essere utile, mi sembra che ci sono 3 kW. Ma non so a quale ti riferisci, però da Bricom ne ho comprato 3, quelli, questi 3 che ho li ho presi tutti lì. Ce n'è uno che è particolare, ha 3 kW, non è molto grande, è fatta con una forma strana, misura 103 kW e qualcosa, costa però, caso magari può risolvere il problema. Forse o non l'ho visto, però mi sembra strano, a meno che non ti stai riferendo a quello silenziato che costa 3,99, ma fa 1 kW e 7. No, è un altro, è un altro. Così. Ma cos'è, ma si rompono quei gruppi elettrogeni? Ti rimandi, cioè se tu compri un gruppo elettrogeno, il massimo che gli puoi fare da assorbimento, se lo vuoi preservare, deve essere la metà del wattaggio. Se vai oltre la metà lo stai già asportando, se lo metti a tutta canna, quello che ti può dare lo spacchi dopo 2 giorni, capito? Perché le vibrazioni, perché tu immaginati che è come se fosse una macchina a cui tu metti, cioè non la lasci partire, gli metti sopra 20 persone invece che 5, chiaramente il motore sforza, fatica, alla fine le vibrazioni lo spaccano. Capo, è strano però, ma almeno lo glielo metti, cioè la manutenzione gliele fai. Sì, no, assolutamente tutti i giorni, se no non ne tiri fuori niente. Mi perdoni un attimino che c'è una passa, devo fare anche una passa un attimo. Su una qualsiasi materia. ti puoi stampare anche una torta. Negativo, quella lì è diversa perché sono, come si dice, anche con quelle lì si utilizzano lo stesso le stampanti normali, però ci vogliono delle cartucce alimentari. Ci passa se dice una persona che le fa quelle cose lì, che ti stampa qualsiasi foto su una specie di, come si dice, di ostia che poi puoi mettere nelle torte. L'ho vista, io l'ho vista fare, ma non qua, l'ho fatta per mio figlio, però ho visto una stampante normale, perché non è commestibile, sì, ma gente sarà. No, no, è commestibile assolutamente, soltanto che dall'inizio quella stampante deve essere utilizzata esclusivamente per utilizzo alimentare, con cartucce particolari per fare quelle cose lì. E cazzo, se no ne vedi persone, non è tanto salubre quelle inchiostre. Ma c'è bene l'inchiostro, quello normale, quello alimentare è tranquillissimo. Oh yeah. E a cosa ti serve questa stampante? Perché ho comprato il kit per poter stampare qualsiasi cosa. E cioè stampa di tessuti, stampa di boccali di birra, stampa di. Quindi bocca di birra, stampa di cappellini, stampa di magliette, tessuto in generale, piattini, se non mi ricordo cos'altro stampa. Se non la metti il cappellino dentro la stampante? No, negativo. Te l'ho detto, la stampante stampa in foglie particolari, dopodiché tu devi esclusivamente ritagliare diciamo la scritta, metti, poggi la cosa in, per quanto riguarda la maglietta, nella pressa principale, se no c'hai delle piccole presse che vanno per le tazze, per i capellini, lo metti in una posizione particolare, pochi secondi ed è diciamo impresso a vita sull'indumento, sul capellino, sulla tazza, è figata. Io ho capito, gli andava. Che bello, non la trovi qua, Sasser? Negativo, l'ho comprato, il tutto l'ho comprato in Svizzera, però il resto lo devo prendere in altro locco, in altre parti. Lei ho capito. Ma hai sentito il terremoto? Ho il tutto, quanto è venuto? Eh? Sentito la domanda. Hai sentito a Bologna il terremoto? Ferrara. Quando? Stasera? È un casino normalmente. Un po' di danni ha fatto, un po' di gente in strada. Poi, no, più che altro sento la bomba giù a Brindisi, dove? Quella, la bomba a Brindisi. Io oggi mi dicevo anche sul computer che era mio fratello che era proprio nell'epicentro del terremoto, per l'istante loro hanno tolto i sedili della macchina, hanno due macchine, due suocere, hanno due macchine grosse e hanno messo i materassi mentre dormono e non l'hanno tenuta, allora dormono di fronte alla casa in questa. Che dormono lì direttamente perché non si fida di entrare in casa. Tra l'altro sono fuggiti, è un bravo, gli è caduto tutto addosso. Certo. Allora era un po' dislocato dall'epicentro. No, proprio nell'epicentro. L'epicentro lì a 3 km sono stati anche qualche morto. Crollato un sacco di roba, allora già c'hanno una. Non so se c'è preso, se siamo stati in Emilia Romagna. No, negativo, come io ci sono stato, ma giusto per cantare, dopodiché. E praticamente è come in Emilia. In quella zona dove c'è Poggio, 100, quella zona lì, no, comunque è molto così. Non so se hai visto quei film con Pieraccioni. Praticamente è tutto pianura. Ci sono delle strade asfaltate anche là che vanno da un paese all'altro, e sono pezzamenti di terreno grossi. Dove ci sono dei casali più o meno recenti, dipende, no? Enormi, capito, belli. E loro per esempio lì era il suocero, non stava a bocca, non stava nemmeno molto male, ecco, mica me. No, loro si hanno fatto una casa su tre piani lì dentro, c'è cioè loro, un casale più o meno, era una cosa bellissima, toccata davanti. Quindi magari era anche non lo so, e sono tutti così lì, è bellissimo perché vedi tutto verde, no? Tutto stradoni, tutti in pianura, grandi pezzamenti quadrati, ognuno c'è il suo casale, capito? Proprio una bella vita, non è male, si mangia bene e qui sono dei bei tortellini. Ma dirò, Slava Gava, scusa un attimino, sto finendo di cercare una cosa, se no non ho le mani libere un attimo, io non ho il pedale. E ci metti così tanto a trovare questa cosa. Minchia, ragazzi, adesso mi sono male. Un altro dopo, siccome dobbiamo andare a fare una cosa, se non facciamo qua, io te lo porto invece per un giorno, cioè stiamo 2, 3, 4 giorni fuori, e così andiamo anche a vedere qualcosa. Quella è una truffa, porti in giro, vedi che lo faccio tornare anche i capelli, li faccio crescere. No, quella è una truffa, se vai a fare quello che hai detto a me, è una truffa, tu la devi dare qua, capito? Devi essere vincente qua, come abbiamo fatto tutti, cos'è questa cosa di andare fuori? Ah? Quella è una truffa, mi state nascondendo, siete degli incapaci. No, hai capito che qua questa sezione salta, la faranno a ottobre, quindi la voglio dare il prima possibile, voglio andare fuori. E voglio darla come avete avuto le possibilità a voi, quando siete andati voi, il periodo scorso, le regalavano le patenti. Avevano riso più denti, capito? Ma se la fanno fare da mio padre, se la fanno già presentati i documenti, solo se lo diritto a ottobre, io me ne voglio lavorare prendere prima, quindi voglio andare fuori. E poi qui ormai già lo sai, non ne vogliono più dare, a parte quello, prima le regalavano, ragazzi, e porci, cazzo, adesso invece non le danno più a nessuno. Io te lo auguro e te la regalo la patente con tutto il cuore, ma ti ricordo che io l'ho data nel 1993, capito? E c'era scritto orale, quindi ti auguro di passarla come l'ho passata io, alla prima, capito? Le patenti hanno iniziato a regalarle dal 2000 in poi, ma io l'ho data nel 1993, capito? Dove tu forse ancora non conoscevi manco la radio. Quello che in quel periodo avevo già smesso di usare la radio perché avevo scoperto qualche cos'altro, lo usavo prima, poi in quegli anni avevo scoperto la gnogna, quindi sono stato distratto per un po' di anni, poi dopo tanti anni che non ce la faccio più, o se a una certa età non ce la facciamo più, ho ripreso la radio. Sì, io ti sto dicendo che nel 1993 non regalavano niente, nulla regalavano, perché il compito era scritto, capito? Era proprio compito scritto, vero compito, non quiz. Se vado adesso a darli, penso che sia una grandissima coglionata. Il bello era quando gli ho dato io l'esame, come l'ho dato tutti i radioamatori di Sassi, e c'era il compito scritto, e avevi 4 ore per farlo. Ma si parlava di elettronica, non si parlava di ADSL, di computer, che a me non me ne ha fatti nulla, capite? I compiti erano veramente compiti allora, adesso sono grandi cagate per conto mio. E chi non passa in questi quiz, secondo il mio punto di vista, senza offesa per nessuno, vuol dire che non è preparato. Allora, guarda, io ti smentisco subito, ma tranquillo. Ritorni a aver dato un compito scritto, non c'è problema. Io su un compito scritto scrivevo e andavo. Le domande erano talmente fuorvianti che quindi mi ho contestato due o tre e mi hanno dato anche ragione, immaginate un po'. Se a me mi davano un compito scritto, io non ho problemi di buttare giù 4 forme, di calcolare un filtro, di calcolare una frequenza, di calcolare un'onda, di calcolare la legge di Ohm, di girare, di fare resistenza, condensatori, fare la testa, un leggero circuito. Quindi se a me mi danno uno schema, cioè mi danno uno scritto, io sicuramente quello non ci avrei avuto problemi. Il problema invece è con i quiz. Io sono convinto, se tu venivi con me a dare quei quiz, non me lo metta nel rispondervi, ma non perché tu come Claudio Sparviero, tu come tutti, perché li ha visti. Non erano quiz da gente normale. Ma quello è che io non ti sto dando torto. Tu devi sapere una cosa, che già da 3 sessioni a questa parte le sezioni a livello regionale dell'ARI hanno fatto un esposto al comitato regionale, dove chiedevano nel modo più assoluto che la commissione d'esame visionasse bene le cartelle e che facesse praticamente i compiti, quindi i veri compiti d'esame, i veri test d'esame, inerenti a quello che è proprio il radiantismo. Quindi non è che ti trovo torto. Ecco perché ti ribadisco il fatto che chi va adesso a dare gli esami con questi benedetti quiz non è preparato perché non ha studiato, forse mi sono espresso, non è preparato nella materia che loro mettono, perché indicato che quelle cartelle appartengano ad un mondo completamente diverso da quello che era l'antismo. Sono completamente d'accordo con te, capito? Perché come hai detto tu giustamente, se oggi una persona come te, come Antonio, come tanti altri che hanno studiato e hanno fatto, perché c'è un Roberto Quadrato che studia tutti i giorni e che continua a cadere sempre nel tramendo di queste benedette cartelle, capito? Quindi se ci fosse veramente un compito scritto come era negli anni che l'ho dato io, chi è preparato in materia, quindi chi ha studiato elettronica, chi si prepara nel proprio in quello che è veramente il radiantismo, penso che nelle sessioni ci siano tantissimi promossi e non bocciati, secondo me. Perché quando l'ho dato io era proprio un vero compito di elettronica, proprio un vero compito di elettronica, dove chi andava preparato, chi aveva studiato come me, perché sono andato 3 mesi, non accendevo la radio preparandomi, studiando, anche perché poi avevo anche la telegrafia e quindi era un'altra seconda preparazione. E molti venivano promossi, ma su tutte le sessioni non c'è mai stato nessuna lamentela, capito? Quindi io ribadisco sempre quello, che secondo me chi va adesso in questo momento, non ha una preparazione talmente larga sotto quell'aspetto. Ci vuole una preparazione un pochino più ampia. Quindi non è che uno si può preparare in elettronica perché deve studiare tutta la componentistica, poi si deve preparare nella DSL, si deve preparare per i computer, si deve preparare per le linee, a me non me la futti nuda di quelle cose, ma ha detto la persona che hanno dato l'esame. Un Vittorio che è Vittorio, è chiaro che è andato con una preparazione sicuramente superiore alla tua e alla mia, perché è 40 anni che lavora nel settore, quindi conosce tutta la parte tecnica e amministrativa di qualsiasi tipo di componentistica, quindi che sia computer, che sia linea DSL, che sia tutto dalla A alla Z. È chiaro che ce l'ha fatta, ma a quanto mi aveva detto lui, c'era un ingegnere elettronico a fianco a lui che non ha bucato bene. Perché? Perché la sua preparazione era mirata su determinate cose che non avevano niente a che fare con quelle cartelle. Sì, allora ci siamo parlato, praticamente nel senso sembrava, ecco, che scusa che non l'ha preparato, ecco, che non è passato vuol dire che non è preparato, è lì un po' mi è toccato. Il problema è che, è come dici tu, proprio siamo perfettamente d'accordo, anche perché io sulla tecnica, per quanto quell'esame è difficile relativamente, se uno comunque le cose le c'erano, ma il materiale non c'entrava molto niente con quello che ci sia. Io ho risposto, infatti mi ha fatto anche i complimenti, ha detto complimenti, lei ha fatto giusto sulla tecnica, poi purtroppo ho sbagliato qualche altra cosa, ma anche perché più alcune non le ho scritte perché c'era per mille motivi, però comunque io infatti se fosse stato scritto l'avrei passato senza problemi, perché avrei buttato giù tutto quanto, anche perché 3 o 4 domande l'hanno detto anche loro, e avrei fatto non il minimo del punteggio, avrei fatto un punteggio altino, 3, 4, anche 5, forse 6 domande, di cui io 2 o 3 le ho risposte, le ho contestate, mi ha detto ragione, lei ha ragione, però una è più giusta dell'altra. Ho detto, mi spieghi un attimino, se 2 più 2 fa 4, non può fare né 5 e per 6, non mi potete mettere una domanda e dire tutte e 3 sono giuste, ma una è più sbagliata dell'altra, con una risposta del genere, se io avessi fatto il ricorso, perché era proprio materiale del mio lavoro, quindi parlava di correnti alternate, correnti, i danni che poteva creare, tanto io insegno queste cose al lavoro, capito? Quindi se con quella roba lì io non ho voluto fare caso, perché se io avessi fatto un discorso con una risposta che mi hanno dato loro in commissione, c'erano 23 eravamo, quanti eravamo, mi hanno sentito, e leggendo quelle domande che gli avrebbero detto, ma scusa un attimo, qua la domanda deve essere è una, e la risposta di seconda ben precisa, quindi le risposte potrebbero essere tutte e 3, ma una è più uguale dell'altra, ma dove l'altra si è visto una risposta del genere? E di queste non so quante ce n'erano, e ce n'erano fuorvianti, ce n'erano alcune che, cioè, come ti posso spiegare, sul primo numero c'era una sulla, senza una memoria, maledizione, è stato sulla dicitura comunque di un componente elettronico strano, cazzo, l'ho fatta giusta. Alla fine no, non è giusta, perché se lei, questo è il presunto, dovevamo pensare al componente presunto come presunto, qualcosa di, cioè cose, non so, questa era stata fatta apposta per... Ma cazzo ti facevo qua, cazzo mi ha fatto venire a fare qua, prendermi per il culo, dico, perché io sono convinto, se io, ma anche Roberto, gli avevamo fatto un ricorso, secondo me saremmo passati, perché avrebbero letto le domande, ma non è che lo stai dicendo, qui almeno 3-4 punti in più devono prendere questi, perché queste domande vanno bene anche come le hanno risposte, per capire che guarda, lasciamo perdere, guarda, io infatti voglio ridarlo qua, l'esame, la verità, me lo dico sincera, voglio ridarlo qua, fatto già fatto la domanda come tu sai, il problema qual è? Il problema è che forse non rinviano perché non c'è il numero, perché la gente si è rotta le balle. Fabri, ce lo dici. Guarda, io ti posso dire una cosa, io ho accompagnato già ben 3 volte prima di iscriverti tu e Roberto. E per 2 volte quelli che ho accompagnato io li hanno crepati. Allora, 3ª volta è capitato un compito a tutti, una stronzata. C'era proprio, quindi ti auguro, come ti ho detto prima, che ti capiti una cartella come quella, che sia un compito basato sulle normative e qualche altra cazzata. È passato un giovane mistero che voi non so se l'avete mai sentito in radio, che praticamente non è scarso, insomma, in elettronica, ma non ha tutta questa preparazione. È capitato proprio un compito veramente, ma veramente facile. Facile perché non c'era niente da poter potersi appellare, capito? Nulla. Mentre invece poi, siccome hanno fatto una sessione sì e 3 no, hanno continuato poi a includere in questo benedetti quiz cose inerenti e non inerenti alla radio, quindi cose totalmente assurde, capito? Totalmente assurde. Come Roberto mi pare avesse fatto 18 o 17 su... non ti ricordo, comunque mi pare ne avesse sbagliato una che secondo lui era giusta, anche lui ha fatto la stessa cosa come hai fatto tu, ha parlato col presidente di commissione e gli ha detto che non era come diceva lui, quindi hanno sempre loro il coltello a parte del manico, sino a quando qualcuno il manico non glielo fa girare al contrario, quindi spero e credo che questa volta insomma vada bene un po' per tutti, perché è una vergogna totale che la Sardegna sia quella più penalizzata di tutte, perché il continente, la sessione del continente, da statistiche ARI, a me l'hanno mandata da poco un'email al computer, l'ultima sessione che hanno fatto in provincia di Roma, praticamente su 36 sono passati 34, 2 erano proprio delle capre, capito? Invece noi su 23 crepati, mi sembra una cosa un pochino assurda, comunque io auguro sempre a tutti che vada bene, ma come ti ho detto prima, con tutta la preparazione che uno può avere, la buona volontà che ci possa mettere, non c'è nessuno che abbia una preparazione proprio totale da quella che l'esame vero e proprio che stanno adottando in questo sistema, secondo me poi ci verrà, spero che vi capiti a tutti una cartella buona, un quiz di quello veramente reale e che possa garantire che uno esca vincente e non perdente. Ok, il Napoli ha segnato sul rigore, sono incazzato nero, il tuo imbecille che si è messo a terrare a coso, vabbè. Gigi Vulcano, riprendi. C'è la Gigi Vulcano. Crode, non c'è Crode. Crode. Oh, che Crode è una capra, non è che va lì, fa spettacolo, poi non studia, non capisce niente, non è che... Ecco perché lui vuole andare in continente a dare l'esame. È una mezza capra, non capisce un cacchio. È una capra perché si allontana, non avverte mai, certo, non avverte mai, però non è che ci vuoi fare. Comunque, quando ho detto circa, non forse non è mai capitato in tutta la storia, guarda, che hanno bocciato il 100%. L'altra volta ne sono passate, mi sembra, su 41 o 2, questa volta il 100%, infatti io li ho visti che erano un po' spaventati, anche loro, sono anche scusati, non si stavano qui, però erano spaventati, erano preoccupati perché non ha passato nessuno. Certo, cioè io ho visto le statistiche, siamo a livello del 70-80% nelle altre regioni, in alcune anche il 90%, però non c'erano sul 70% di ammissioni. Quindi qualcuno, infatti ho letto su qualche forum, ha detto siete voi in Sardegna delle capre o siamo noi troppo intelligenti, ma cosa sta succedendo? Per dirsi, quando ho lavorato io c'era un ingegnere, nemmeno questi qui ingegneri, ma io quando abbiamo finito le erano tutti fuori, tutti la barbarina, tutti fuori i denti, tutti quanti fuori, cazzo, sette elementi sembravano, questo ingegnere era sicurissimo di essere passato, tutti quanti di blu, io ho detto, perché ho detto blu, minchia, quando sono entrato in prima di lavorato ci sono stato anche bene, perché è l'unico che comunque hanno indicato il dito facendo i complimenti, anche se sono passato, e mi ha detto, cazzo, allora questa massa di tonti qua, cazzo, che hanno tutti convinti di passare, compreso questi ingegneri, minchia, cazzo, la cosa è messa male, qua ho detto, ti do per dire, ma se ne va a fare un culo, poi ho fatto, non c'è problema, una discesa, una passeggiata a Cagliari, ci vedremo la prossima volta, arrivederci. Il problema è che l'ultima statistica veramente condannato la Sardegna, se così vogliamo dire, perché l'ultima statistica che ha dato l'ARI nazionale era del 95%, cioè il 95%, cioè la Sardegna penalizzata del 95%, cioè in pratica da su tre sessioni d'esame ci sono stati, mi pare, due o tre promossi, cosa che il continente, ripeto, su 36-34 promossi, su in provincia di Roma, l'ultima che hanno fatto mi pare a Bergamo su 26 promossi, certo qua su 23 bocciati per tre volte, capito? 18, 20, 22 mi pare, erano 17, 13, 17, 23, cioè matematici, tutti gribaldi, cioè manco uno, cosa che prima ai tempi miei era avvantaggiata molto Cagliari, sicuramente, ma su Cagliari, sulla provincia di Cagliari c'erano molti candidati. Noi eravamo sempre penalizzati, come Ari Sassari ci hanno sempre penalizzato, perché in quegli anni lì pochissimi sono passati alla prima, capito? Presidente dell'Ari di Sassari è andato, mi pare, 5-6 volte, una cosa del genere, e tantissimi altri. Io mi ricordo, ero in continente, ho sbarcato la mattina alle 7, l'avevo fatta a maggio, un caldo il giorno, no? Un maggio di questo periodo, nel 93 ha fatto un maggio splendido, io ho sbarcato alle 7 a Polo Torese, sono arrivato a casa, mi sono dato una sciacquata, c'era la Bonale Maestore Lai con l'argenta, ragazzi, già pronto, con i motori caldi, via a Cagliari, che ero stanchissimo, morto, e stavamo ripassando in macchina, così le cose essenziali, giusto perché volevamo farle tutte e due. E ti dico che l'ultima formula che avevamo fatto, perché c'era un'equazione che non finiva più, io ero in panne totale, non riuscivo a chiuderla. E poi quella fine l'abbiamo chiusa, ci ha fatto il fianco perché era a due banchi, non è più come adesso, capito, uno dietro l'altro, prima erano a banchi quelli doppi. E tale aveva, a me mi dava, mi pare, mi ricordo sempre, mi pare che era 183,2 o 163,2, una cosa del genere. Lui invece ha fatto la formula, l'ha chiusa al contrario, e le hanno convalidata lo stesso, perché si sono accorti che praticamente la fase, insomma, dell'equazione, sia in apertura che in chiusura, se faceva un errore di calcolo e si accorgevano che il procedimento dell'equazione era giusta, comprendevano lo stesso. Adesso cazzo, se tu invece di dire sì o no, però pur sapendo che quella formula che c'è scritta nel quiz l'hai capita, ti bocciava lo stesso, cioè non ti convalidavano niente, capito? Erano molto più aperti prima, accorgendosi se tu eri preparato, erano molto più aperti, adesso ti crepano subito. Però prima riuscivi a... quando è un esame, cioè sono sempre stato un po' contrario agli esami, soprattutto quando non sei pronto, ma bene, quando non sei pronto vanno bene i quiz, perché te la giochi, capito? Te la giochi e dice se mi va bene, cazzo x croce, x croce, cioè 2-1 e passi. Invece quando sei meno male preparato, e comunque la materia più o meno, non moltissimo, perché poi può essere anche la prima volta una preparazione di base, non è che ti richiede una preparazione, pure tutto è possibile. Riesci a discutersi, no? Quando ti chiamano, quando fai l'evento, inizia a chiacchierare. Magari ti dimentichi quello, però con due calcoli poi ci arrivi, cioè capiscono, quando ti chiedono un filtro passa basso, passa alto, quando ti chiedono come calcolare un filtro, come costruirlo. Ristringere, tanto calcolare la frequenza, devi calcolare l'onda, e tu queste cazzate qua, cioè magari puoi sbagliare, ti guardano e te lo dico, mi scusi, ma no, perché sì, no, è vero che è stato un errore, perché eri emozionato, per mille motivi, perché in quel momento ti sfuggiva, ma ci sei arrivato subito, no? Un po' come un'interrogazione scolastica. Invece così niente, così al momento X, e poi la maledizione che ti mettono anche questi a fare bocca e tutti qua attento dalla macchina, cazzo ce lo siamo fatti per fare tempo davanti, sto parlando di un hobby che dovrebbe essere una cosa, poi bene, invece c'è una minima preparazione di base per poter, capire ormai con tutto il scenario nuovo non ci puoi più fare niente, vedere un po' se la preparazione di base per poter installare un orario, usarla correttamente, non lo so cosa stanno cercando, io non lo so la verità, non so cosa pensare. No. E ti abbiamo chiamato, lo vedi? In bagno ci è andato. Sono lontano un attimo. A dire la verità ho ricevuto una massa. Io ho parlato con l'ingegnere che fa parte della commissione, che quasi si vanta del fatto che su 30 persone non ne siano passate neanche una, ed è quello che io muovevo appunto questo dubbio, gli ho detto, perché mi sembra strano, sa, che perché se su due persone non ne passa neanche una, stiamo parlando di due unità, ma 30 su 30, o si sono presentati 30 ignoranti, gli ho detto, oppure la cosa era decisamente troppo difficile. Allora, siccome a seguito del fatto che molto probabilmente non riescano a costituire la commissione quest'anno, cioè questo semestre, devono procrastinare la cosa a ottobre, gli ho detto anche che la nostra intenzione, almeno la mia intenzione, perché parlo per me, era quella di andare fuori. E lui dice, no, fa una cosa sbagliata, cercava di farmi desistere, dicendomi che chi lo passa in Sardegna è motivo di vanto la cosa. Io credo che sia motivo di vanto per loro bocciare le persone, per cercare di rendere la cosa un qualcosa di elite, di elitario, cioè qualcosa non per tutti. Secondo me è una cretinata, perché stanno svuotando realmente la frequenza e non si stanno rendendo conto realmente che poi alla fine quelli a cui la stanno dando così preparati non sono, perché questo lo dico da SWL, sto in radioascolto e molto spesso non sembra neanche di stare in 27, sembra di stare nel mercato dell'ortofrutta, su frequenze dove dovrebbero starci persone patentate con un minimo di razio che utilizzano la radio per fare radio, cioè della radiantistica amatoriale, quindi dovrebbero amare quello che stanno facendo, e invece sono dei caffoni. Tanto io ti rispondo intanto dicendoti che tutto il mondo è paese, no? Quindi non pensiamo che essere animatore vuol dire insegnare a qualcuno a fare radio, su questo non si discute. O ci si nasce nel mondo radiantistico, quindi con un operato particolare dove si riesce a valutare un po' le cose, il comportamento di una persona è coerente sia da una parte che dall'altra, quindi deve essere equiparato in ambedue i campi. Il fatto è che la risposta che mi è stata data a me il giorno che io ho accompagnato queste tre persone, che praticamente alla terza volta non ci sono più andati, e praticamente è una risposta da ignoranti, detta da un presidente di commissione, da un ingegnere, un responsabile soprattutto del allora Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, oggi Ministero delle Telecomunicazioni. Quando io feci la domanda appunto, ma come mai secondo lei ingegneri queste gestioni sono così difficili? Lui mi ha risposto queste testuali parole: le capre devono rimanere nell'ovile, capito? Cioè, se è una risposta da dare a un radioamatore già con tanti anni di radio e di esperienza vissuta, sia come CB che come radioamatore, credo che sia una risposta che io mi sono dato da solo. Non sono le capre che devono rimanere negli ovili, ma sono le persone che dirigono l'ovile che devono praticamente non andarci, perché la realtà è quella. Perché se tu sei un responsabile di commissione, se tu sei uno che deve dare un aiuto a chi sta venendo lì a fare un compito, che sia scritto, che sia orale, eccetera, un minimo di aiuto devi darlo, perché ribadisco ancora una volta che quando l'ho dato io nel 1993, l'allora ingegnere, che non era De Biglio ma era ingegner Tocco, con le mani dietro, che sembrava un maresciallo dei carabinieri, girava in tutti i banchi, quando ti vedeva in difficoltà, ti guardava e ti diceva: e allora, perché sei bloccato lì? Perché non riesco ad andare avanti? Ti faceva ragionare, e dice: come riesci ad andare avanti? Perché? Dove è il problema? Ma stiamo parlando di equazioni che non finivano più. Non finivano più, cioè calcoli matematici che non ci voglio pensare. Il mio addirittura era, mi ricordo sempre, il compito che dovevamo fare era costruzione ed uso di un alimentatore a 13 volts, quindi tutti i componenti che ci andavano dentro, l'uso dell'alimentatore, eccetera. La costruzione e la funzionalità di un oscillatore di frequenza, di allora. L'emissione in gambe operative, costruzione, emissione in gambe operative di un'antenna verticale da VHF, cioè cose del genere, quindi calcolare, fare, tutti, e quando arrivavi a fare un calcolo matematico che qualcuno sì, eravamo ragazzini, però già finito di studiare, dimenticato, magari guardami una futi, guarda, so fare uno più uno, mi va bene, però alla fine quando poi ti trovi davanti a un'equazione che sei anni che non li fai, cazzo, vai in palla, e a me mi è capitato, non riuscivo a chiuderla, si è avvicinato e mi ha detto: guardi che c'è un errore, torna indietro, non riuscivo a capire dove era, ed era una grandissima stronzata. Cioè, invece di chiudere la parentesi quadra, l'avevo aperta e mi sono trovato con due parentesi uguali e non riuscivo più ad andare avanti, perché sai come funziona, no? Già te la ricordi, quindi o apri o chiudi, perché poi il calcolo non ti dà, quindi vedi, però passava questo imbecille che c'è adesso, perché è un imbecille, un benemato imbecille, non solo di passare, ma costringe ai presidenti ARI, ai presidenti di commissione ARI, che sono quelli che devono girare e dare un aiuto ai candidati della stessa sessione, di stare zitti, di non parlare, di non avvicinarsi neanche al candidato. Cioè, te le immagini cosa è cambiato? Mi rendo conto, ma basta il fatto che questi qua non non sono comunque della Radio Mazzuri, almeno fra di loro non ce n'è neanche uno, perché mi è capitato di chiedergli e mi ha detto che addirittura questo qua, siccome faceva opera di controllo, mi ha detto che odiava la radio, perché per lui, essendo uno strumento di lavoro, nel momento in cui rientrava a casa non aveva nessun intanto, il solo silenzio radio, quindi il rumore sottofondo, lo infastidiva. Guarda, so perfettamente di chi stai parlando, quindi non ti do assolutamente torto, ma ragione doppia. È un beneamato imbecille, capite? È un beneamato imbecille. Perché tu immaginati che il mio nominativo di adesso, quindi S0 di FB, è il secondo. Perché il mio primo, in patente speciale, quindi se ti avrebbe dato la telegrafia, era W0URT. E va bene così, quando poi ho dato la telegrafia, che mi hanno segnato il nominativo, era IS0DCR, e a posto mi è arrivata la... fortunatamente avevo la provvisoria ancora, perché c'erano allora le patenti provvisorie, in attesa che ci sia il giudizio finale, perché ti danno, tu hai fatto un esame, sei stato idoneo, ti danno la patente, la licenza, cioè la patente, non la licenza, la patente provvisoria, intanto loro indagano e fanno i controlli per vedere se tu sei come devi essere. Allora c'era il penale, c'era insomma tutte le cose. Insomma, per farla breve, mi danno IS0 DCR. Mi ricordo sempre in paese, c'era Marco, Walter, se mi ricordo qualcuno, vado a provare la radio, ma con un semplice dipolino del cacchio, che non ho più neanche, l'ho regalato a Vannino, vado in 40 metri, io da Sassari, entra uno da Capoterra, IS0 DCR, questo mi sta prendendo per il culo. Non ho capito, sì, sono Giovanni S0 DCR da Capoterra, io sono Claudio S0 DCR da Sassari, non può essere, non so, che numero hai di patente, tot, il mio è tot. Beh, sai che ho fatto subito, ho chiamato su un caletto, guardate che c'è un errore, quindi chiamate a Roma, avete un po', perché ci sono due S0 DCR in Sardegna, è impossibile, mi ha detto è impossibile. Lui, impossibile, poi io non sono imbecille, avevo nome e cognome e il numero del collegamento, tutto, perché mettevamo tutta log, le mando la fotocopia del fax, del log, le dimostro io che non è così, mi ha preso per bugiardo e imbecille, mi ha detto che io non sapevo usare il mio nominativo, a me, infatti mi ha tirato giù e non l'ho bugiardata, alla fine ho avuto ragione, perché ho mandato una raccomandata a Roma chiedendo il cambio di nominativo, perché c'era un omonimo in Sardegna, ma non altri S2 FB, per dirti quanto è cretino, cioè non mi ha creduto. Sì, vince da come parla, assolutamente. Ti ripeto, me ne sono bastati un paio di minuti per capire che è la classica persona che quasi ci prende gusto a creparti, capito? Quindi è per quello che poi alla fine stiamo cercando scappatoio, perché se fosse studiare e basta, e avessi di fronte una persona equilibrata che realmente ti giudica sulla tua preparazione, ci siamo. Se questo qua, dopo averti bocciato, si tira una pipa perché è fuori di testa, non mi sembra il caso. A questo punto cerco di girare lo stacco, sarà meno, come devo dire, meno di blasone, però mi affutto, anche perché una discesa lì ogni volta ti costa un paio di centinaia di euro, se vai a calcolare. Riprendi, chi è rimasto oltre Fabrizio? Anche Gigi Vulcano, riprendi Gigi. Ho chiamato due volte a Gigi, forse si è allontanato, non lo so. No, ma io sono d'accordo con voi, cioè tantissima gente, non, ripeto, negli anni che l'ho data io, ma nel 2000, nel 2001, nel 2002 sono andati fuori a dare la patente, poi l'hanno convertita, hanno fatto il cambio nominativo, quindi da, per dire, Italia 1 a IS3, addirittura un che conosco molto bene, un amico di radio, diciamo, che ci conosciamo, era italiano, quindi è andato in provincia di Messina a dare in Sicilia, a dare l'esame, capito? E mi ha detto che era di una facilità tranquillissima, perché era già 6 volte che andava con i Sardegna e non riusciva a togliere piedi, con una minima preparazione. Mi ha detto: Claudio, non sono andato tecnicamente preparato, però con una minima preparazione che mi ha consentito di poter passare l'esame. Ma l'esame era un vero esame di radiomatore, niente a che fare con quello che fanno in Sardegna, mi ha detto. Dopo che gli hanno dato la definitiva, non ho fatto altro che convertire da italiano a IS0. Inizialmente modulava col nominativo Italia 9, adesso mi ricordo, barato IS0, quindi praticamente devi fare così, però dopo ha convertito in IS0, quindi non succede niente. Perciò se avete la possibilità di io questa me l'avrei tentata, l'ultima, avrei tentato questa prova. Poi se non va neanche questa volta, sicuramente sarei andato fuori. A te, Fabrizio. A te il Napoli ha vinto, finalmente. Il problema che io voglio andare, se non la fanno a ottobre, prima di aspettare ottobre, se trovo un tramo campionato terraggio vado, se no vado a questa, non ho problemi, cioè alla fine me ne frego, capito? Vado là, perché se no è un casino, è una grande presa per il culo, faccio per fare. E poi io sono convinto, vabbè, io faccio la mia convinzione, però comunque aspettiamo, non me può fregare di meno, aspettiamo oggi, cos'è? 20, aspettiamo qualche altro giorno e poi decidiamo. Comunque tu sei da qualche altra parte, se non lo fanno entro il prossimo mese e c'è possibilità di farlo fuori, lo facciamo fuori, capito? Deve iniziare a muoversi, eh? Se non c'è oggi è 20, per conferma, chiamate la dottoressa Giago, se avete il numero se lo ve lo passo io, perché è lei che dirige la baracca lì, capito? Parlate direttamente con lei, se risponde la signora Secchi mi fate passare la dottoressa Giago. Perché lì che sa esattamente se la sessione va avanti, se ci sono i candidati, se c'è tutto. Io ho sempre parlato con lei, è molto gentile, l'ho anche conosciuta di persona, perché sono andato a Cagliari la settimana scorsa, ma la conoscevo già 2 settimane fa per fare il nulla osta, e avevo fatto il cambio di stazione da qua via Pascoli, adesso ho rifatto la via Pascoli a qua, perché quello è una cosa molto importante, il documento ufficiale, dove se ti viene un controllo tu devi dimostrare che la stazione è ubicata in dove si residente. Se c'hai la stazione radio da un'altra parte sei passibile di multa, e quindi l'ho fatto, nulla volta di nuovo. In ogni caso vi dirà sicuramente che vi mandano la conferma o per sì o per no, perché la devono mandare, non possono tenere la gente così. Franco, che sto guardando sul computer tutte le date, un attimo. Ma io l'altra volta l'ho guardato, le date delle altre regioni non è semplice trovarle, è una cosa un po' particolare. Radio Amatore, su Napoli, poi che appare il coso e ti dice sì o no, se ci sono esami, se c'è qualcosa, perché sul sito del Ministero delle Telecomunicazioni non c'è niente, che schifo quel sito, scrivono un sacco di cazzate e non scrivono le cose serie. Puoi provare però, andare sul Ministero delle Telecomunicazioni e scrivi esami per radioamatori, se ci sono date già in vista, se c'è in Sardegna, se c'è da altre parti. Sì, fra l'altro c'è la smentita qua di quello che diceva lui, perché realmente uno lo può dare dove vuole l'esame. Datemi 2 minuti, vi dico tutte le date che sto aprendo il sito adesso. Anch'io tu guarda, ma non è vero, e sono piatto. Prova a fare su quello metodo delle telecomunicazioni, Fabrizio, e scrivici esame da radioamatore, per se ti dà qualcosa. Gli esami per diventare intenzionale per il 30 settembre. 30 settembre? E la togliendo così in me. Non so. Ad esempio, Etano li aveva dati a Napoli. Ed erano più o meno un mese dopo quelli che avevano dato qua, mi pare un mese o 2 mesi dopo. Scompiva lontano con il tiro della radio, però vedo un'occhiata, c'è il limite, se ce la faccio per prendo dopo, e se siete ancora qua, se no ci sentiamo le prossime, che mi devo allontanare un attimino. Un attimo, mi devo allontanare anch'io, claro, riprendo fra 5 minuti, un attimo. No, e ritenete di salutarti perché io vado a nanna. Vedete un pochino se trovate qualcosa, è già tardi, domani devo alzare sì. Voglio riposare un po'. Dai, buonanotte a tutte e due, statevi bene, grazie alle due chiacchiere, saluto chi è in ascolto sul canale 10. Buonanotte a tutti e a domani. Ciao, buon 144, mi sentite, a domani, ciao. Oh Fabri, ricordi che ci vediamo, devi dare quell'affare. Vieni tu, quando vuoi. Non lo voglio Fabri, non lo voglio, io adesso, domani cos'è? Lunedì, domani sono anche da solo, quindi domani mattina non ci sono. Però domani sera già sono a casa, rientro ce l'ho martedì, capito? Ce l'ho martedì e giovedì, quindi già sono a casa, se sei in giro non c'è bisogno di stare a rompere le palle col telefono, passi sono qua. Se porti il bambino in palestra intorno alle 6 ci faccio un salto, Sì, sono qua a casa io con loro, te l'ho detto, domani non c'è niente. Non esco sicuramente alle 2, ma dalle 3 in poi sono a casa, quindi se vuoi passare dopo le 6, alle 6, quello che vuoi, già sono qua. Ok, dai, ci vediamo domani allora, ciao a tutti, buonanotte. Ciao, buonanotte.